comunicare una cosa ai nostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Renzo, devo dirti subito la verità, sempre chiacchiere. Renzi ha esportato la chiacchiera anche in Europa. Cioè, questo è vero che era il discorso di insediamento del semestre europeo, finito poco fa peraltro. Però lo vogliamo dire, cioè, quando tu pronunci per strada la parola semestre italiano in Europa, non gliene frega nulla. Ma niente. Ma non è questo un buon motivo per non parlarne? Cioè, secondo te adesso le persone che ci stanno ascoltando, camionisti, tassisti, quelle centinaia di migliaia di persone, piccoli artigiani, sanno che inizia il semestre italiano di guida dell'Europa. Lo hanno letto sui giornali. Ma non snob, perché tu snob, pensi, non sanno un cazzo, non gliene frega niente, razzista, perché non cambia nulla. Tratti i camionisti come fossero. Ma no, ma non i camionisti, ho detto anche gli architetti, eccetera. Leggono i giornali, ma la gente, perché stanno nelle piazzole, negli autogrill, ma la gente capisce che non sanno magari a cosa serve il semestre. E noi lo racconteremo. Ma non racconteremo nulla. Nel dettaglio. Non racconteremo nulla. C'è anche un'intervista che ha fatto signor Renzi. Ma sì, vabbè. Allora, grande esclusiva. Renzi che dice, per esempio. Sì. Già dalle parole di Renzi si capisce che è una specie di palcoscenico in cui uno usa le parole così per propaganda. Renzi dice: se uno oggi facesse il selfie dell'Europa, ci sarebbe il volto della noia. Ma che vuol dire? Non vuol dire nulla. No, vuol dire questo, vuol dire che purtroppo la parola Europa non è associata. Ce lo deve dire Renzi, non è arrivato Renzi a dircelo. Alla modernità, all'entusiasmo. Sentiamo. Se oggi l'Europa facesse un selfie, che immagine verrebbe fuori? Posso dirlo con estrema preoccupazione? Emergerebbe il volto della stanchezza, in alcuni casi della rassegnazione. Se dovessi dirla in modo sintetico, direi: l'Europa oggi mostrerebbe nel selfie il volto della noia. Che originalità. Comunque, e poi ha pronunciato anche la parola Telemaco. La nostra generazione ha il dovere di sentirsi Telemaco. Che vuol dire? Grande metafora. Ma cosa vuol dire? Con riferimento, non vuol dire nulla, al mito greco. Non ha parlato di immigrazione, del dramma dell'Europa che non fa nulla per l'immigrazione. Quelle migliaia di persone che arrivano alle nostre coste. Ti hanno arruolato tra i tuoi amici della Lega Nord. No, mi hanno arruolato. Per la ex indipendenza della Padania. Senti, Renzi. Sei lì con l'Alberto da Giustano già in mano, tu arruolato, ex Roma ladrona, inglobato in questa nuova, no? Ma questa che nuova mitologia leghista, anti-europeista. Senti Renzi. Nessuno parla di Telemaco. Però Telemaco, se ci pensate, ha un compito che è ancora più difficile. Non a caso all'inizio dell'Odissea Atena lo chiama e gli dice: non potrai mica pensare di restare qui ad attendere. Anche la nostra generazione, quelli che sono nati, quelli che non avevano neanche 18 anni quando c'era Maastricht. Io non ero neanche maggiorenne quando c'è stato Maastricht. Non voglio sentire più niente. Signor Renzi a Strasburgo. Non mi interessa nulla, cancellate tutto. Allora, sentiamo. Manda almeno quel pezzo. Allora, una collega del qui presente, poi lo alzeremo sul podio. È un inizio drammatico di trasmissione. Che si chiama Moretti, Alessandra Moretti, dice che l'Italia dovrebbe avere il Nobel per la pace per Mare Nostrum. Cioè, voi rendete conto, noi andiamo a prendere le persone, certo, le salviamo. Moretti beve troppa birra dal cognome. Cioè, è ubriaca. Ma come fai a dire delle cazzate del genere a Moretti? Bevi birra Moretti. Tutto buttato in vacca subito. Ragazzi, sono Gianluca Buonanno, vi saluto. Buonasera. buonasera. Anche qua, cioè già ci rompe i coglioni per telefono. Ora siamo qui, eppure in studio lo invitiamo. No, lo chiamiamo noi quasi sempre. Cioè, no, no, tu. No, tu, anche tu lo chiami. Anche tu, perché io sì. L'ho intervistato per Matrix, Andrea. E allora che vuoi? Cioè, cosa forza, vuoi? Ormai sono, il circo. Sono diventato. Il circo è arrivato qui. Europeo, sono eccolo europeo. Qua. Dove hai lasciato il tendone? Perché ho visto ancora che lo stai costruendo qui fuori il tendone, no, del circo. Ti sto aspettando perché mi servono tutti quelli che devono piazzare, sai? E allora volevo il chiamavo cerchio, il tu sei perfetto fuori, per andare Parezzi. Dentro un cannone. Sì, no, gli ho detto prima, cioè, sì, infili dentro, infili dentro l'uomo piccolino, sì. E allora siccome io sono il capo del circo, chiamo lui, lo metto nel cannone. Moretti, Nobel per la pace all'Italia per Mare Nostrum, ma vi rendete conto noi? L'Italia per Mare Nostrum, che tu pensi, no, che sia una grande operazione, no, umanitaria? Io, no? Dico addirittura, no, io, no, dico, ma, che è incompleta. No, ve ne dico di più io. È incompleta. Barry Obama, sì, che è stato Obama, Obama, buon anno che cito Obama. No, no, Obama, sì, che ha parlato, sai che ci sono i clandestini che arrivano dal Messico, no? Sì, Stati Uniti, ha detto chiaramente, qua sì, li possiamo anche prendere, ma poi dopo li riportiamo indietro. Obama, Nobel della pace, però nessuno dice niente. Se noi della Lega diciamo che i clandestini devono stare a casa loro e li aiutiamo lì, siamo brutti e cattivi. La Moretti dice cazzate. Calma, Moretti, sentiamo la Moretti intanto. Dice, secondo lui dice cazzate. Ma non è un linguaggio da eurodeputato, da parlamentare, va bene, europea, radical chic, radical chic. Si deve mettere il frac. Sì, perché non si adegua un po'? L'Europa è nel cuore dell'Europa, Strasburgo. Sembra un centro commerciale qua dentro, un centro commerciale gigante. Ma questo è il Parlamento europeo. Ma è un centro commerciale. Ma fa schifo. Fa schifo. Cosa? Questa sede fa schifo? Ma no, cioè, è tutta una cosa così gigante. Se la burocrazia a Roma è 100, qua è 1000. Ma rappresentate 500 milioni di cittadini, 27 paesi. Ma che di che ma parla? No, ma qui veramente, se Roma è la lumaca. Ma lei dovrebbe palpitare questo, il cuore per l'emozione. Ma io sono qua a combattere per difendere, combattere la gente. Cosa? Cosa combattere? Gli stronzi come te. Ma comba sempre sobriamente in questa Moretti, radio, Moretti, ma fatemi sentire sta Moretti, dai, dai. Ai ferraristi. Ora, operazione Mare Nostrum, grazie a questa operazione che il governo ha messo in atto sono state salvate centinaia di vite umane. Io credo che all'Italia, che è stata giustamente, Laravetto diceva, è stata lasciata sola in questi anni a gestire questo problema, dovrebbe essere riconosciuto il Nobel per la pace, per aver salvato così tante vite umane. La nostra marina militare, i nostri militari sono ogni giorno impegnati per salvare vite di persone che scappano per lo più da territori di guerra e di disperazione. Dicono che non bisogna urlare, bisogna parlare in maniera più pacata, se no non si sente nulla. Ma noi non bisogna urlare. Posso porre un problema? Qual è il problema? Anzi, una considerazione, più che un problema. Ho una considerazione di buon anno. Ci sono i mondiali di calcio. Sì, okay? Sì. Sentiamo. Sì. La Nigeria, sì, che fino all'altro giorno ha giocato i mondiali di calcio, sì, è uno di quegli stati dove provengono più clandestini. È uno di quei stati da cui provengono. Da cui provengono, sì, i clandestini. Che fai? Vabbè. Non è che tu sei come Manzoni, eh? Però insomma, liceo classico. Vabbè, dai, forza. Prego, andiamo avanti, scusi. La Nigeria però ha i soldi per fare i mondiali di calcio, va tutto, e nessuno dice nulla. Io, se fossi uno che comanda nella FIFA, ad esempio, direi, no, amico mio, tramite il governo ad esempio italiano, tu non sei capace di tenere la tua gente, la mandi al massacro e magari sono morti, sì, nel mar Mediterraneo, tu i mondiali di calcio non li giochi, quei soldi che hai risparmiato aiuti la tua gente, perché i primi assassini di tutto questo disastro sono i governi da cui partono tutte queste persone che non fanno assolutamente niente per cercare di aiutare la propria gente. I paesi africani andrebbero banditi finché non risolvono dai mondiali, finché non risolvono, certo, il problema. I paesi africani, i paesi africani che lasciano in questa condizione la propria gente, che è pagato per dire queste robe? Ma è quello che penso. Ma tu sei pagato per stare qua? Ma io non so. Faccio il giornalista. Ma meno male, allora posso farlo anch'io. Lei è pagato per dire queste cose. Cioè, l'analisi di buon anno sull'immigrazione, no, è questa. Ti ho qua. Fatto già due esempi. Il primo di Obama, Nobel della pace, Obama, che dice: i clandestini messicani che arrivano, io li rimando indietro. Sono disperato. Io li rimando indietro. Questo è Obama. Se l'avesse detto Salvini o buon anno, ci avrebbero crocifisso stanotte. Ma dopodiché, nei mondiali di calcio, io vedere la Nigeria. Fuori gli che africani. Gioca, fuori gli africani. Gli africani che mandano al macello la propria gente, se ne fregano, non dovrebbero essere ai mondiali di calcio come in tutte le altre competizioni. quei soldi che risparmiano li risparmiano e aiutano la propria gente, ma dobbiamo sempre aiutarli noi. Ma noi dobbiamo andarli a prendere con le navi, con il Mare Nostrum, facciamo certo bene, oppure è una porcheria Mare Nostrum? No, io penso che sia giusto andarli a prendere, però riportarli a casa loro. Cioè uno va con la barca, arriva dai barconi, li carichi invece e li riporti in Africa, nel paese certo, e vede che dopo una volta, la seconda, la terza dice uno, ma io non mi muovo più. Ho capito, ma questi scafisti cosa dobbiamo fare? Che pene dobbiamo fare? Forse per me sarebbero tutti da mandare alla pena di minimo al 41 bis, minimo. Il 41 bis per i scafisti, sì, sì, certo. Per gli scafisti, giusto, come per i mafiosi, uguale. Sì. Ma quelli che ti dicono sono morti e l'ha voluto Allah, ma quelli non devono più uscire di galera. Io sarei ancora più drastico, sarei per la pena di morte. Pena di ma morte per gli scafisti, vabbè, ma si può pure provare. Ma perché rilanciamone? Anche no, perché cosa hanno fatto? Sì, ma anche la tortura. No, perché fare, no? Ho capito, per questi che hanno portato ad ammazzare la gente. Ma io non è che difendo gli scafisti, tutt'altro. Però lui dice pena capitale per gli scafisti. Magari li possiamo anche torturare un po' prima, no? Li torturiamo, poi pena di morte, pene no? corporali, sì, perché non serve, certo, mica una brutta, certo, idea, vedi, sì, che la prossima volta non lo fanno più, sì, pene corporali per gli scafisti. Però un'altra cosa sugli scafisti, su questi qua, tanto ma si può dire qualunque ma cosa, questi, no? qua che salgono sulle navi un po' sanno a cosa vanno incontro, questi qua, questi africani, capito, nigeriani, allora cioè, se la cercano una un po', se la cercano un po', no? Se la cercano un po', cercano uno sbocco, dopodiché se vengono caricate sulle navi vengono accuditi, ma ritornano nelle proprie coste. Questo deve fare il nostro paese. E invece qua succede che li prendi, li porti a casa, scappano, hanno la scabbia, hanno la TBC, ma lascia perdere. Andavano, no, andavano a lavorare. E quando gli italiani ma se facevano la, lo sai che si chiamava quarantena, stavano in quarantena. Io ho proposto in Parlamento di mandarli tutti all'Asinara e stanno lì 40 giorni perché la scabbia, la TBC, chi è che la prende? Guarda, e che quello che ha lasciato la TBC in giro, ma sappiamo dove è andato a finire. Quello che le società si sono evolute per fortuna. Ecco, di fatto. Siamo cioè, noi che siamo i pessi di tutto. Oggi Renzi ha detto una fesseria, tra le altre, dove ha detto noi siamo contenti sui soldi. Ha detto perché noi italiani siamo grandi pagatori in Europa. Bene. E siamo contenti di esserlo. Ma come siamo contenti di esserlo? Se paghiamo un sacco di soldi, non siamo capaci di riprenderci i soldi e sui clandestini l'Europa ci ha lasciato da soli. Però scusi, buon anno, io voglio capire una cosa. Ma adesso mi dà del lei. No, vabbè, uguale, lei del tuo ogni tanto alterno. Scusami Gianluca, ma tu li porteresti alla Sinara tutti quanti? Cioè? Ma certamente sì. Cioè, no, io le manderei nelle proprie coste. Vabbè, se proprio devono arrivare in Italia, alla Sinara, c'è cioè una specie di lager. No, in quarantena. Tutti in quarantena. In quarantena, intanto guardiamo sulla scabbia, sulla TBC, intanto non possono scappare. Invece oggi vanno nelle prefetture di tutta Italia, dopo due giorni non sai più dove sono. E questi che cosa fanno? Delinquono, hanno magari le malattie, non le aiuti per niente, li mandi al ma certo che tu li devi aiutare, ma così il governo li aiuta, bravo, ma il governo così li aiuta. Lo fa, la Croce Rossa lo fa ogni giorno di stare lì. Ma non gli hai detto niente sul burka, non gli hai detto niente sul burka. No, io non gli ho detto, speravo dopo traffico successi. Io non voglio morire islamico, hai capito, voglio, caro Parenzo? Io dico basta, che in Europa, basta in dire Europa, stupidaggini! In Europa le radici cristiane, questo lo dovrebbe dire il Santo Padre. Il Santo Padre che invece ha reato di immigrazione clandestina. Non voglio pagare 12.000 euro il biglietto di questo circo. Non l'ho pagato, non voglio pagarti. L'immigrazione clandestina è reato, c'era la Città del Vaticano. Se li portasse nella Cappella Sistina insieme alla Boldrini. Il Papa dovrebbe portare c'ha reato di immigrazione clandestina. Ma tu, ma quanta segatura hai in quel cervello? E tu invece? Quanta segatura tu invece c'hai? Guarda, io vedo dall'altra parte. Perché devo spendere 12.000 euro per vedere? Come una campana. Quanto mi costa sto biglietto del circo, sto teatro, quanto mi costa? Pensa, sì, pensavo fosse esclusiva dell'Italia avere sto circo barba qua, che sono i giornalisti stranieri che oggi mi hanno fermato e "Excuse me, Mr. Parenzo, do you know Mr. Bonanno? It's a man with Beh, è conosciuto anche all'estero. It's a man with a burka. Yes, it was a member of Italian Parliament. Now he's here. Tutto imbarazzato ero. Oh, it's really disgusting. Dico, yes, it's disgusting, of course. Parenzo, ci siamo fatti riconoscere. Parenzo, ci fai ridere. Pigliare per il culo. Siamo due giorni che siamo qui e scafi. Ci pigliano tutti per il culo. Bravo. Due giorni ma pensa al PD. Due giorni. Ma pensa e le televisioni. Ma vai, ma ti prendo calci nel sedere. La gente non può vedere, ma ti prendo calci nel sedere. Le televisioni di tutto il mondo, ma per amor del cielo, ma ti do un calcio nel culo. Vergognati. Well, now, mosquito, there must be... non siete seri per niente. Lo so, ho capito, non siamo seri per niente. È con noi dal Parlamento italiano a quello europeo, dove già si è presentato con il burka, Gianluca Buonanno. Eccomi Lega qua. Eccoci qui. Che c'hai oltre al burka? Che c'è? No. Che c'è? Ho fatto una cosa oggi. Ma che ha fatto? Parenzo, che ha fatto? Che ha preso una bandiera dell'Europa. Sì. Eccola qua, mamma mia. Poi ho ritagliato un cartone come fosse un, cioè, un sagoma di una bara. Sì. Tutto il giorno c'è un cazzo da fare proprio. Ma non è vero, l'ho fatto, fatto tra, una votazione. Paghiamo un deputato per Paghiamo un deputato per fare. Ma ti rendi conto? Ma ti dovrebbero radiare dall'albo dei giornalisti. Dall'ordine, sì. Attenti, dovrebbero radiare dalla civiltà umana. Mare perché nostrum, tu sei pagato per fare queste cose. Mare, qui. Di, mare sangue. Di sangue, ma è vero. Ma per fare questi origami, ma tutti fai. Questi morti, ma tutti questi morti sono mai? Colpa di gente come la Boldrini, che fa delle insinuazioni. Cioè, la Boldrini è responsabile dei morti. La Boldrini è comunque partecipe di questa situazione, perché è una che continua a promettere mari e monti a gente che invece arriva qua, se ce la fa, e trova o la morte o comunque la miseria, è una persona che non ha il senso civico. No, quando uno dice allora che Mare Nostrum noi meritiamo il Nobel per la pace, anche quella persona lì è colpevole della morte. Ma di come si fa a dire delle cazzate del genere? Cioè, io penso, io sono veramente serio, che a forza di raccontare situazioni che non ci sono nel nostro paese, tu crei delle aspettative che questa gente invece non troverà mai qui, mai, perché non c'è una crisi del lavoro, non c'è più lavoro neanche per gli extracomunitari che sono qua residenti, qua intendo, adesso siamo a Strasburgo ma parlo dell'Italia, sì. È ovvio quindi che se ci sono tanti extracomunitari che se ne vanno e tu dici ad altri extracomunitari clandestini venite perché sei tanto colpevole, vi accogliamo tu, sì. L'intervista sulla stampa della Boldrini era un inno alla morte, perché questa gente che parte, molti di loro muoiono. È una follia. Ma non è la follia, perché, cioè, tu comunque altri hai un'aspettativa che non esiste. Questo è un posto, un'istituzione, un posto serio. Altri deputati, secondo te, si mettono a fare il bricolage e portano in aula una bara? No, secondo te, no, una bara in aula? Allora, non è una bara, è una sagoma. Io ti sto dicendo una cosa seria. Non sto giocando, sto dicendo una cosa seria. Perché dopo i 360 morti di Lampedusa, a che serve? Noi ti paghiamo 12.000 euro per fare questo. Fammi finire, un attimo, parenti. Quando c'è stata la tragedia di Lampedusa 8 mesi fa, è venuto Barroso, c'era il presidente eletto, c'era tutta l'Europa, facciamo, hanno fatto zero. Da quel momento lì a oggi ci sono state altre decine e decine di morti. La colpa di chi è? Senti, cosa hanno fatto? Intanto il vostro alleato Berlusconi, Schulz, che cacchio fa? Questo ho parlato oggi, quel vergognoso Schulz, quello si deve vergognare. Perché si deve vergognare? Che ha fatto? Non hanno fatto niente, rappresentano l'Europa, comandano l'Europa, Schulz, la Merkel, eccetera. Ma cosa fanno? Come ti sembra questo Schulz, quello che Berlusconi chiamò il capò? Beh, mi sembra che Berlusconi non abbia tutti i torti. A proposito di Berlusconi, ha fatto una svolta sui gay, hai visto? Cioè, ha detto che ci vogliono. Sì. Però hanno detto una malignità. Cioè? Che anche Vittorio Feltri, che l'ha difeso, in realtà c'è stato. Chi ha detto, l'ha fatto perché l'ha detto. L'ha detto chi? L'amorosa di. La Pascale, sì, Pascale. Sì. Qual è la malignità? È che Feltri si è messo a difendere, si è iscritto all'Arcigay. Sei iscritto all'Arcigay? Ma perché non ti iscrivi pure tu all'Arcigay? Per amor del cielo. Perché? Perché? Ma sei divenuto. Ma non lo vogliono neanche. No, ma adesso stiamo scherzando, cioè. Anche dire che ci può essere l'adozione tra nessuno ha parlato di adozione. No, nessuno ha parlato di adozione. Ci sono quelli che dicono che bisogna adottare. Torna a fare l'origami. No. Nessuno ha parlato di adozione. No, Vendola non parla di adozione. Ma sì, certo. Non c'è nel progetto di nessuno in questo momento. Ma non sto parlando di Berlusconi che ha detto quello, però mi pare, se non ricordo male, che la Pascale invece abbia detto che non è così contraria al fatto che due omosessuali possono adottare un bambino. Ok? Allora io a questa cosa sono nettamente contrario. Poi gli omosessuali mi fa letteralmente vomitare. No, ma te pure un bacio tra due omosessuali ti fa vomitare. Mi dà fastidio molto. Ti dà fastidio, cioè, a me dai fastidio tu invece, pensa un po'. E tu se parli ancora 5 minuti tu sei sindaco di Borgo Sesia. Se a Borgo Sesia due omosessuali si baciano, anche sindaco. Che succede? Sindaco ero deputato. No, io vado là e dico: scusate, forse è meglio che queste cose le fate non in un luogo pubblico. Cioè, è vietato il bacio in pubblico tra omosessuali. No, mi dà fastidio, non è che può essere vietato, però ci vuole anche un minimo di senso civico. Ma ho capito, cosa vuol dire senso civico? Due persone che si vogliono bene? Dello stesso sesso? Ma di che cosa ti fai? Cioè, già non mi piace due che si baciano in maniera vistosa. Perché? Mi dà fastidio. Però, a maggior ragione, due dello stesso sesso. Ma fai un'ordinanza, no? Fai un'ordinanza. Potrebbe essere un'idea. A Borgo Sesia. No, mi faccia capire. Cioè, lei vuole fare a Borgo Sesia. Quanti abitanti ha sta Borgo Sesia? 13.000. Adesso ne parliamo come fosse sta cacchia di Borgo Sesia. Borgo Sesia, la Valsesia, Varallo. Borgo Sesia, Serravalle. Le vostre piccole patrie. La nostra patria è il mondo. È l'Europa la nostra patria. Lì sempre Borgo Sesia, 14.000 persone. No, il tuo mondo è andare a fare il Palio degli Asini a Serravalle. Abbiamo fatto il Palio 2 settimane fa. Non c'eri, Parenzo, il Palio degli Asini. Ti volevamo far correre. Ma scusa, nella Lega ci saranno pure omosessuali ogni tanto, no? Non lo so, può darsi, ma comunque io non sono contro gli omosessuali. Se uno è omosessuale, però vive però la sua sessualità, non mi devono rompere i coglioni. No, non in pubblico devono mantenere contegno. Contegno in pubblico, certo. Cioè, no gay pride, ma assolutamente no. Cosa, ma cosa c'è di piume, piumini, carri? Già hai visto no, gli ultimi gay pride? Quelle schifezze, ma che schifezze? Ma io, ma il sindaco di Roma che va a gay pride è tutto esultante, ma Roma fa schifo. Ma a Fontana di Trevi, lo sapete che deve stare chiusa 2 anni? Ma che e c'è un sindaco che dorme in piedi, no, per dire. Spende 1 miliardo, cioè chiede 1 miliardo di moneta cash perché non c'è i soldi per Roma Marino e poi arrivano i Rolling Stones, come li chiamo io, i Rolling Stones e fanno i Rolling Stones circo massimo, solo 7.000 euro per un evento mondiale. Quale vergogna, una roba giro, intelligente che ha fatto. Ma vedi che sei un comunista delle balle, comunista di sì, tu sei un comunista a 7.000 euro, ma tu ne potevi chiedere, hanno parlato del circo massimo in tutto il mondo. E perché quando vanno a fare i concerti i Rolling Stones in giro per il mondo, da te non saranno fanno? In quel posto lì, Borgo Sesia, dove tra l'altro violentavano i cassonetti, peraltro. Io ho letto una notizia a Varallo Sesia. Non era guarda così, di che posto sei stato sindaco, dove un signore ha molestato un cassonetto nel comune. Pensavo da te fossi governato. Tu. Pensavo fossi tu. Pensavo fossi tu. No, ma scusa, beh, guarda, ma scusa, sarebbe divertito. Ma tu una volta hai detto addirittura che i tossicodipendenti vanno bastonati. Ma com'è possibile? No, ho detto. Ho fatto un discorso un po' più articolato. Io ho detto: se diventano canne legali, no? E un tossico, oppure un tossico commette, fa un incidente ed è colpa sua, io li bastonerei. Ma come si bastonerei? Perché c'è la sigla del circo, per così a Milano. Parenzo, datemi la sigla del guarda circo. Guarda che cerco un portaborsa, potresti venire. C'è la sigla del circo? Ma la sigla del circo. Non perché tutti quelli che dicono la droga libera, le canne, eccetera, eccetera. Milano. Succede un incidente con l'automobile e tu rovini delle persone. Tu li pigliaresti abbastonati. Cioè, quelli che dicono. Ma per rieducare, libera... per portare un drogato sulla retta via, servono anche le maniere forti, le bastonate. Cioè, se fossi un padre, due sganassoni, due bastonate, gli vedresti a un tuo figlio adesso drogato? Bastonate, no? Sto dicendo in senso lato. Dopodiché. In senso lato, il bastonate sono bastonate. Se io non sono come il prefetto di Perugia, per quello che ha detto, ti dico però che. Se uno commette un reato. Se uno commette sotto l'effetto della droga va bastonato. No, mi viene da bastonare le persone che difendono che bisogna libertà drogarsi. Ma cavolo, poi ti succede un incidente e dice: come mai eri distratto per il cellulare? No, mi sono fatto una canna e ti sono venuto addosso. Ti ho ammazzato il figlio. E allora dico: allora paga il giusto. Ma chi cazzo ti ha messo in quel posto? Sei un idiota! In questi casi bisogna solo tacere, se non hai soluzioni politiche, stai zitto, idiota! L'idiota sono io, qui il conducator della Zanzara, 800240024 in diretta da Strasburgo, Parlamento Europeo, con David Parenzo e Gianluca Bonanno. Buonasera, buonasera. Neo eurodeputato della Lega Nord. Neurodeputato. No, come neurodeputato? Ma tu 26.661 voti, quando li prenderai mai? Ma guarda, che se si candida votato. Qualche voto lo prende, sì. Qualche voto lo prende, sì. Sicuro. Sì, qualche pirla come lui che lo vota. Ma non è il mio mestiere, non mi candido per fare il circo. Cioè comunque, ragazzi, oggi ci sono due notizie: Pier Silvio Berlusconi che dice che fa il tifo per Renzi e che non vede un'opposizione. Dunque, praticamente dice il padre non è più in grado di fare l'opposizione a Renzi. E che se non si trova un'alternativa, governerà Renzi per i prossimi 20 anni. Dice 20 anni, questo Pier Silvio Berlusconi, certo, sai che lo dico io, Pier Silvio Berlusconi, questo è interessante, però capito? Non mi conosce, cioè in che senso? No, perché se mi conoscesse probabilmente direbbe cioè perché forse... tu vuoi sfidare Renzi? Cioè. Ma potrei avere qualche chance. Ma c'è già Salvini. Pier Silvio, no, è, con- certo, Pier Silvio è con- che è il mio editore anche peraltro oltre alla radio, è contento semplicemente. Fai il lecchino. È contento. Lecca bene, lecca il sedere di Pier Silvio, lecca anche i piedi. Tutto. Salame che bene, non sei altro. Bene, bravo. Che Pier Silvio è contento. Bravo, vai a Portofino, lecca perché i piedi. Perché tu, io non lecco i piedi a nessuno, ma perché sì, vai nelle trasmissioni televisive e siccome spari talmente tante stupidaggini, ti fai schizzare gli ascolti. Siccome fai ascolto, è contento perché così lui fattura. Questo è l'unico motivo per cui è contento. Non dispiace Pier Silvio, perché vai lì a fa... mi piace come lavora. Buon anno dice che ti piace Pier Silvio come lavora. Parliamo di Lanza, sta già battendo l'agenzia Lanza, mamma mia. Buon anno, due punti, tu fai ascolto. Mi piace Pier Silvio come sai lavora. Tu cosa fai? Ma sei veramente, tu sei meglio di un lassativo, fai cagare tutte le volte che parli. Onorevole, mi scusi onorevole buon anno, onorevole buon anno, lei si rende conto che avrà davanti 5 anni qui, no? Certo. E che sono passati soltanto 2 giorni da quando lei è qui e già ci ha sputtanato in tutta Europa. No, sono guarda che 2 giorni, caro mio, e 13 ore per l'esattezza, e ci ha sputtanato in tutto. Ci sono i giornalisti di tutto il mondo, che finalmente parlano dell'Italia per cose serie di tutta Europa. Giornalisti francesi che sono minori delle tasse. Oggi ho saputo una notizia fondamentale. Sono venuto a conoscenza di una notizia fondamentale. L'ex, non so se è stato rieletto Pittella, vicepresidente, a me non me ne fotte un cazzo di queste cose. L'ex vicepresidente del Parlamento Europeo, signor Pittella, mi ha detto: farò che per il capo delegazione del Partito Socialista Europeo. A me adesso non mi interessa queste cariche, non mi interessa. È il capo delegazione dei soldati. Sembra che si spartiscono. Cosa è successo? Ma no, anche voi avrete un capo delegazione. Ma perché? Ma vai sulle palme a prendere le noci di cocco, Parenzo. Vai sulle palme a prendere. In quel cervello c'è tanta segatura. Ma vai. Allora, questo signor. Tu sei solo una sega. Perché? Pittella ha detto che ad agosto farà due mesi di full immersion per migliorare il suo inglese. Sì. Ad agosto due mesi. Vogliamo ricordare le performance di Pittella? Dear all, on 28 November 2011, an historic event happened at the EU Parliament in Brussels. The first ever peace declaration was signed here. Poi di recente ce n'è stata anche un'altra non molto diversa. Comunque la notizia è questa: ad agosto due settimane di fuori. Me l'ha detto lui: ad agosto farò una full immersion di 2 settimane per migliorare l'inglese. Era di fronte a me, poi non voleva fare un'intervista. Altra notizia: sono tutti interessati a scegliere la Miss Parlamento Europeo. C'è una signora romena, pare, una signora romena, Parlamento Europeo, molto bella, e una signora greca. Onorevole Barano, lei ha visto, no? Una greca e una romena sono in corsa. Ci sono era impegnato a preparare. Me l'ha raccontato Mario Aiello mi ha raccontato questa cosa. Ci sono tutti quelli di Forza Italia che sono appassionati di queste due persone, una greca e una romena. Senti, tu buon anno, che hai fatto? Anzi, prima il TG3, sentiamo i titoli del TG3, poi ti voglio chiedere che cosa farai in futuro, perché hai fatto sindaco, consigliere di non so che cosa, consigliere regionale, parlamentare europeo. Che cosa vuoi diventare dopo? Grazie, parla a terra. No, voglio diventare la spia del KGB, voglio lavorare per Vladimir Putin. Non Luxuria, Vladimir Putin. È pazzo. Io penso che Putin sia oggi numero uno al mondo. Sei un figlio di Putin proprio, tecnicamente. Sei un figlio di Putin. Guarda, mi è venuta una cosa da dire, ma lasciamo perdere. Sono educato. Ma non ho capito, cioè tu vuoi lavorare per Putin? Cioè, vuoi distruggere l'autorevolezza del KGB? No, io penso che Putin sia visto male in Europa, quando secondo me invece è veramente... Il numero uno. Secondo me è il numero uno nel mondo, più nel di Obama. Mondo. Ma stai scherzando? Le leggi contro la propaganda gay, bellissime. Vabbè, lui dice delle cose che possono essere anche condivisibili, che non bisogna manifestare la propria omosessualità, parlare di omosessualità. Dicevo prima io, sono un piccolo Putin. No, però scusa, intanto sentiamo il TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi a Strasburgo per l'avvio del semestre europeo a guida italiana. Senza crescita l'Unione non ha futuro. L'Italia non viene per chiedere ma per dare. L'affondo del PPA in aula. Bisogna mantenere la linea del rigore. I debiti non creano futuro. La replica alla Germania fu concesso di violare i limiti. A Pozzallo recuperati 45 corpi dei migranti asfissiati nella stiva del peschereggio. Per l'Alto Commissariato ONU nei giorni scorsi un altro naufragio con 70 dispersi. Quasi completato il trasbordo sulla nave statunitense dei container con le armi chimiche siriane. Il ministro Galletti, Gioia Tauro, la scelta giusta. In Medio Oriente, Israele e Hamas sono i ferri corti dopo l'uccisione di 3 ragazzi israeliani e di un coetaneo palestinese. Violente proteste e scontri a Gerusalemme Est. L'ex presidente francese Sarkozy è stato formalmente incriminato per corruzione, concussione e violazione del segreto istruttorio. Stasera parlerà in TV. All'Italia, stretta finale per gli esuberi, una settimana per chiudere. Camusso, no a prendere o lasciare. Scioperano piloti e assistenti di volo. Il sindaco di Padova Bitonci spiega perché vuole mettere in tutti gli edifici pubblici il crocefisso. Appena insediato, insomma, sono entrato nel mio nuovo ufficio e ho visto che neppure nell'ufficio del sindaco non c'è il crocefisso. Io da sempre ho fatto una battaglia, ho anche dei contenziosi in piedi nei confronti di coloro che volevano far togliere i crocefissi dalle scuole. Li paghiamo di tasca nostra, Bitonci. Ma posso dire che è una cazzata pazzesca questa qua. Io sono d'accordo con tutte le cose di sicurezza che riguardano Padova e i barboni, eccetera. Quali d'accordo barboni? Al 100%. Tutto, 100% d'accordo. L'accattonaggio, le cose, la pulizia, il decoro della città. Questa cosa del crocefisso è una cazzata. Io lo voglio dire a Bitonci. È una cazzata, caro Massimo Bitonci, lascia perdere questa cosa del crocefisso, non è importante, lo Stato è laico, non è che uno può imporre negli uffici pubblici il crocefisso, a me non mi interessa, non è che lo tolgo, toglierlo è uguale, non è che bisogna toglierlo. Ci vuole la foto del capo dello Stato. Come? Negli edifici pubblici. Ma non ci vuole nessuna foto. La foto del capo dello Stato o la bandiera italiana. Io cioè, ragazzi, l'ho. Io non ce l'ho. Ma non avevo dubbi. Non ce l'hai, la bandiera italiana non ce l'hai. Neanche quando c'era, adesso non c'è più, ma Scalfaro io tirai via la foto. Ma napoletano ce l'hai? Napoletano no, non ce l'ho. Non, cioè, ti fa schifo napoletano? No, non è che mi fa schifo, anzi, devo dire che una persona di 89 anni farei io firma perché arrivare. È stato in gamba in certi momenti dei topici del paese. Però cioè, non posso sentire la morale dal Presidente della Repubblica che sono più di 60 anni che è dentro nei palazzi ma romani. Ma lei rappresenta il paese. Cioè, sì. lei quando da sindaco ha tolto dal suo ufficio... Vabbè, ma la foto la foto del capo dello Stato. Ma un sacco di ha fatto un atto ma io neanche l'ho trovata. E doveva chiedere di metterla invece, perché la foto invece del capo ho fatto dello di più, sono andato a cercare. Ma perché non metti quella di Putin? Quadri... Adesso potresti mettere quella di Putin. Adesso quasi quasi, ecco, mi ha fatto venire una bella idea. No, pensa alle idee di Cruciani. E invece, come se già quella di Parenzo. Come se già non avessi abbastanza segatura nella testa. Dice mettiamo la foto di Putin. No, metto quella di Parenzo. C'è pure il Papa Francesco. Papa Francesco. Quella di Parenzo. Papa Francesco. Papa Francesco mi sembra un po' comunista. Comunista. Papa Francesco. Per certi aspetti sì. Beh, perché sì, i comunisti sono quelli che ti dicono cosa devi fare, però loro fanno il contrario. Sull'immigrazione clandestina, se tu hai reato di immigrazione clandestina, caro Santo non Padre, c'è più, per fortuna. No, nella Città del Vaticano c'è, e quindi tu cosa dici c'è? A noi cosa dobbiamo fare, e alla Città del Vaticano c'è il reato di immigrazione clandestina. Hai visto mai un clandestino tu la Città del Vaticano? Un vu comprà la Città del Vaticano? Ma cosa stai dicendo? Ma io non capisco, ma loro sono quelli che dobbiamo accogliere. Li porta la Cappella Sistina, lui li porta la Cappella Sistina e io li prendo a casa mia. Per 5 anni sarà qui. Ha aperto pure sui gay, il Papa, lo sai? Si vede che ne ha tanti nella chiesa. Cioè, il problema no, perché per trattenere i preti anche quelli gay. Ma quanti vengono fuori? Ma poi i preti che fanno politica, l'ho già detto tante volte. Io a Borgo Sese c'è un prete che ha fatto la campagna elettorale contro di me. Adesso lo chiamiamo uno di questi giorni. Che ha detto ma, sto prete? Ma ha fatto campagna contro di me. E vabbè, arrenditi. Ma scusa, posso, ma il prete, non è che vuoi domenica... il 100% come Putin. No, che vuoi il 100% come Putin. Io ti dico che domenica vado in chiesa e dico oggi la messa la faccio io. Ma che c'entra quello? Adesso vuoi dire anche messa? Vuoi dire anche messa? Se un parroco dice fa la politica, io allora a questo punto vado in chiesa e faccio. Quale sarà la, visto che qui avremo 5 anni. Ma il KGB vuole fare la gente. No, ho capito, ma avremo 5 anni di show garantito. Cioè, tu potresti se io fare metto i la prossima non mi riconoscerà nessuno. Ma, tu vuoi fare l'insider della Russia qui al Parlamento Europeo, cioè la spia segreta. Io voglio lavorare amico, per la Russia. Io voglio essere amico della Russia, perché la Russia il gas è uno stato molto potente e ha un personaggio come Putin che secondo me è più avanti di tutti gli altri. Capito? Cari amici del Parlamento Europeo, vuole fare la spia di Putin, quelli che l'hanno, di Putin. Ma quelli che l'hanno votato, lo sanno, quelli che l'hanno lo votato, sanno. Che ascoltano un deputato italiano al Parlamento Europeo che dice voglio essere la spia di Putin in Europa. No, la spia è ma nel ti senso rendi conto? L'uomo. Che fa gli interessi voglio di essere Putin. L'uomo. Tu devi fare gli interessi degli italiani. Ma certo, e invece sei qui a fare bricolage, a metterti il burka e a sputtanarci con i giornalisti di tutto il mondo. Allora, sul burka lo zimbello del Parlamento Europeo. Il Santo Padre dovrebbe ringraziarmi per le radici cristiane. Cioè, vuoi essere ringraziato dal Santo Padre per questa cosa? Dovrebbe ringraziarmi, fa tante telefonate, ha telefonato anche a Pannella, può telefonare anche a me. Quindi telefonare per dire hai fatto bene, buon anno con il burka perché difende le radici cristiane. Aspetto la telefonata del Papa da questo punto. Dopodiché, è buono questo, eh? Poi c'era anche il prete di Varallo, altro che ha fatto la campagna pure pubblica. Vabbè ragazzi, dobbiamo chiudere, grazie a Giorgio. No, c'è? Volevo che chiudere c'è? Su questa cosa qua, diceva fare l'interesse dell'Italia, ma se noi abbiamo il gas russo possiamo stare più tranquilli, perché invece qui hanno fatto di tutto e hanno segato anche il povero Silvio Berlusconi perché era troppo amico vabbè, di Putin. È quella un'altra storia. Vabbè, grazie a Gianluca Buonanno, la vera ciao vergogna a tutti. Oggi c'è una vergogna però, la vergogna quando? È che Renzi per l'esclusiva di Vespa di Porto, no, questo va detta questa cosa, c'era una prassi che è quella di fare una conferenza stampa, chi se ne frega, poi è aperta a tutti al Parlamento Europeo, siccome c'è l'esclusiva da Vespa questa cosa è stata cancellata, lo sai anche tu, dunque lui è volato da Vespa per fare porta a porta, così prima dicevano sera. Oggi nei corridoi, sì. Voglio farvi ascoltare questa cosa perché c'è, a proposito della vicenda omosessuali, adozioni, eccetera, eccetera, Maurizio Gasparri che ha detto che il senatore Lo Giudice del Partito Democratico, che è andato in America, il suo compagno ha fatto la cosa, come si chiama? L'inseminazione. No, l'utero in affitto. L'utero in affitto. Cioè, ha fatto inseminare una ragazza, sicuramente hanno pagato, poi sono tornati indietro con un bambino. Io sono a favore di queste cose, ve lo dico subito. Sono totalmente a favore. È controversa l'adozione tra omosessuali, ma io sono ferocemente a favore perché l'ho detto più volte, sono andato al Gay Village, eccetera, a dire che non mi interessa. L'importante è che il bambino trovi affetto, se lo può trovare anche tra due uomini e tra donne, è la stessa cosa. Parenzo, che fa finta di essere di sinistra, ma in realtà su questa cosa è molto conservatore. No, ma ho dei dubbi sulle adozioni, ho dei dubbi sulla invece a favore dei dubbi. Pax, dico, ma io invece sono a favore. Però qualche Gasparri dice. Gasparri, che conosco bene, che dice che Lo Giudice va arrestato. Va bene tutto. Però è Gasparri. Sì, d'accordo. Stiamo parlando di un signore che si chiama Gasparri. Sì, d'accordo, però ha detto va arrestato, se non Lo Giudice. Ripeto, dai. Gasparri l'ha detto. Sì, ho capito. Cioè, io non starei. Però sentiamo il contesto. Siamo a Strasburgo, sentiamo. Non parlerei di Gasparri. Per un giorno lo dimenticherei, Gasparri. Beh, ma poi, perché? Per dai, siamo a Strasburgo, ma in realtà parliamo di cose italiane. Non è che parliamo anche, di Europa, perché sennò ci facciamo due palle così. Sentiamo Gasparri, dai. Prendere una donna così, a pagamento, no. Fargli fare un figlio è un reato penale, va arrestato chi fa una cosa del genere. E c'è un senatore italiano che l'ha fatto. Dai, su, ma che significa fargli fare un figlio? Sono delle norme, delle procedure, non è che è andato in America a violare la legge, l'ha fatto fare in Africa da una sconosciuta costringendola con i soldi. Cioè, uno può pensare che ci sia un traffico di queste cose, benissimo, combattiamo il traffico di queste cose illegali, ma quando un paese consente di farlo, uno va lì, lo fa, appunto, no, e sai basta. Qual è il dramma? Che chi ha i soldi lo può fare. E vabbè, ma questo succede sempre nella vita, ragazzi. Capito, cioè, appunto, i soldi però non è che non contano nella vita, c'è certo, chi può fare certe cose e c'è chi non le può fare. Si tratta di ridurre le differenze. Va bene, è il sì, punto. D'accordo, ridurre le differenze, siamo d'accordo, però insomma, non è che il mondo vive anche di queste cose qui, alcune cose uno se le può permettere, altri non se le possono permettere, adesso va benissimo tutto, però va bene, poi che dobbiamo sentire? Se dobbiamo sentire Grillo, che ieri ha detto che i soldi finiscono alla mafia. Una stupidaggine. La cosa della mafia, cioè è venuto al Parlamento Europeo, sì. È venuto a Strasburgo per dire questa cosa qui, non dateci i soldi. No, che i soldi dell'Europa che devono andare all'Italia finiscono nella mafia. Ora, qualche volta può accadere, è successo, non è che non è successo, non è che a tutti i torti. I soldi dati per lo sviluppo, queste cose qua dell'Europa, detto così, non date più i soldi all'Italia perché finiscono alla mafia, certo una cazzata. Voi credete. Ragazzi, non date più finanziamenti all'Italia, perché date dei finanziamenti e scompaiono in tre regioni. Calabria, Sicilia, quindi mafia, 'Ndrangheta e Camorra. Non date di più. Sono le regioni convergenze. Possono andare in ma è con noi, ma è con noi Flavio Zanonato, ex sindaco di Padova, europarlamentare del Partito Democratico. Buonasera, sindaco. Buonasera. Come si trova in questo ambiente nuovo del Parlamento Europeo? sto prendendo confidenza, sono stato 2 o 3 volte a Bruxelles e adesso sono qui a Strasburgo. E abbandonato la sua patria ed è diventato improvvisamente leghista. Ma non l'ha abbandonata. Cioè, abbandonato nel senso che è diventato ministro, non è più sindaco, eccetera, e all'improvviso è ritornata, è venuta la Lega. Soffro molto di questo. Per la verità ero andato via 1 anno fa, sì, certo, quando sono diventato ministro. Ma soffre per questa cosa della Lega? Molto, molto, perché ritengo che i padovani non si meritino questa soluzione. Però l'hanno votato. La democrazia alle volte. La democrazia, la democrazia. Tira brutti scherzi. No, la democrazia è, come dire, il peggior sistema politico che esista se si escludono gli altri. Certo, questo, credo. No. Quindi dobbiamo per forza accettarlo. Sì. Però è dura accettare. Cioè, lei quando va all'estero, dire, Padova amministrata da un leghista, le dà quasi fastidio, sente un po' di vergogna, no? Sono stato in giro tutti questi anni a dire: ma penserete mica che a Padova ci siano i leghisti? E invece sono rispuntati come dei funghi. Porca miseria. Cioè, si vergogna un po' di questa cosa? Eh sì. Addirittura. Però uno può dire la democrazia, Zanonato. La democrazia. Senti, anche Hitler dice è stato eletto. No, questo non si può dire. Non arriviamo a esempi così estremi. Non arriviamo a esempi così tipi. Ma sarà, qual è il problema? Questo non ha manco cominciato. Giudichiamolo da quello che fa. Ha annunciato delle cose sulla sicurezza. Tutte cazzate oppure c'è del vero? Cioè, tutte cose di propaganda. Adesso vediamo cosa. Barboni, accattonaggio, queste robe qui. Allora, un conto è la sicurezza e un conto è la tolleranza nei confronti della gente che vive in condizioni di miseria estrema. Sono due cose completamente diverse. Certo, disturbano anche i personaggi che vivono con l'accattonaggio. Però io sono per la tolleranza e per cercare con queste persone di trovare un approccio completamente diverso, cioè di aiutarle, di vedere di non emarginarle, di provarle e di provare eventualmente a reinserirle. Non sono certo dell'idea di cacciarli, perché da i cani altra... addirittura, no? Sento parlare di cani. La delibera non c'è ancora, però... Sento parlare di cani. Cioè, ma che personaggio è secondo lei? Cioè, un personaggio pittoresco? Come lo definisce Bitonci? Un personaggio... Ah, non saprei definirlo. È un personaggio molto aggressivo. È stato sindaco in un comune Cittadella, importante, sì, della nostra provincia, dove, da quello che ho sentito, non ha fatto malissimo, tranne queste cose un po' estemporanee. Avrete qualche colpa per questa sconfitta del Partito Democratico? Tu dici il centro-sinistra? Si sente un po' responsabile o lei non c'entra niente? Un po' responsabile sicuramente, probabilmente bisognava immaginare un dialogo più forte con i padovani, spiegare meglio certe cose, non lasciare che si... come dire, affermasse l'idea, la convinzione che i problemi della sicurezza dipendono soltanto dal comune. Poi sono stati fortemente enfatizzati, vabbè, perché la città di Padova è una città più o meno normale, dove il benessere è notevole e quindi attrae anche la gente più povera, più in difficoltà. Senta, ma le parole usate da qui alla Zanzara, da Toscani, che ha definito subumano, addirittura vuole promuovere una class action per questi provvedimenti, comunque ha definito subumano, vergognoso il sindaco di Bitonci, le condivide questa posizione o no? Queste frasi? La prossima domanda qual è? fatemi altre domande. Quello è chi tace acconsente. Fatemi altre domande. Se dovesse scegliere, è il silenzio imbarazzato. Cioè, secondo lei veramente... No, subumani proprio no. Allora, l'espressione è troppo forte, non la condivido, è troppo violenta. Ma sono misure che danno l'idea di una scarsa capacità di spiegarsi le contraddizioni del nostro tempo. Sono dove incivili, accanto, sono cose incivili. Accanto, ecco, questa è già un'espressione più tecnicamente più corretta, accanto a tanto benessere nascono anche dei fenomeni di emarginazione con cui bisogna convivere con l'idea di recuperare questa gente. Cioè, io mi sono sempre rifiutato di comportarmi nei confronti di questa gente con un accanimento e un atteggiamento invece violento. Questo sembra essere il sembra poi, di sì. Adesso, per esempio, il diritto di pregare sarà un diritto universalmente riconosciuto. Questa concessione che è stata data alle palestre. Ora, non ricordo dove. La concessione era stata data dall'amministrazione precedente, sì. E adesso dice non la darò più. Sì. Intanto già l'anticipare un animo cattivo a me pare un errore, perché ci sono 10.000 musulmani a Padova. Dice, dove vanno a pregare, dice lei. Dove vanno a pregare, come a Milano. Dove vanno a pregare da una parte e dall'altra con che animo si rapporteranno con gli altri padovani, cioè un atteggiamento di voglia di collaborare, di amicizia, cioè può creare di odio, simpatia, lei dice. O il contrario. E cioè crocefisso, invece imporre il crocefisso nei... Ma intanto ecco, anche qua c'è molta demagogia, perché io non ho mai tolto i crocefissi negli uffici pubblici. Nel mio ufficio c'era il crocefisso, c'è sempre Beh, stato. Sì, ci mancherebbe altro, infatti toglierlo è un errore comunque. Ecco, non... Come imporlo? Sono stato in scuole dove le mamme si vantavano di poter dire che accanto al crocefisso c'era anche la mezzaluna, perché lì c'era Abdon, Ali, il bambino di religione musulmana. Perché, secondo lei, accanto al crocefisso in alcuni casi a richiesta ci può essere, ecco, anche la mezzaluna. Ed era bello vedere che la maestra mostrava: guardate, questo è il nostro crocefisso perché noi siamo di religione cristiana, però Ali o Mohammed, e che invece è musulmano, anche lui ha il suo simbolo ed è la mezzaluna. Cioè, lei vedrebbe, bene, io... vedrebbe bene le scuole dove ci sono al crocefisso accanto la mezzaluna. Io vedo bene quegli ambienti in cui queste questioni non diventano questioni divisive, ma sono affrontate e discusse con serenità. Invece l'imposizione di un crocefisso è una, forzatura. L'atteggiamento è quello di una forzatura, e poi del tentativo di conquistare un consenso che già famiglia cristiana... smontato. I leghisti operano il sequestro di Dio. Quando mettono sequestrano il crocifisso, danno un valore politico a un simbolo religioso. Io sul crocifisso, io sui provvedimenti sul decoro della città, dello Stato, se servono, io sui provvedimenti sul decoro della città, se servono, sono d'accordo sempre. Per me nei luoghi pubblici ci deve essere solo la foto del capo dello Stato. L'ho già detto a Bidoncio, ho fatto un appello a Bidoncio di ritirare questa cosa del crocifisso che lui ha promesso in campagna elettorale. O la bandiera italiana negli Stati Uniti, nei luoghi pubblici c'è la bandiera degli Stati Uniti. Adesso mi è capitata una cosa curiosa. Sono stato, ero ancora sindaco a Washington, sì, e ho visitato l'Università Cattolica di Washington. Prego, se qualcuno è in grado di verificare, sì, ecco, non ho visto un crocefisso appeso. Ah, cioè addirittura l'Università Cattolica. Ed era l'università che coordina tutte le università cattoliche. Alla... Ma questo perché? Per... Zanzara, questa cosa dell'imposizione del crocifisso è una cazzata. La possiamo dire così? Anche in una sciocchezza, magari. So che lei non usa questo linguaggio, però nel privato lo usa questo linguaggio, lo userà sicuramente. Non è che è una parola che non ho mai sentito. Adesso me la faccio spiegare da David Barri. Cosa vuol dire? Che non guardi, guardi, sindaco, una stupidata. Sì, il professor Cruciani diceva questo, una sciocchezzuola. No, però allora, qualcuno l'ha spiegato. È una cazzata pazzesca, diciamola così, Flagazzo. È una cazzata pazzesca. Liberiamoci. E su questo siamo. E dai, è una cosa violenta. Una cosa violenta, lei lo definisce il suo sindaco, Bidoncio, o no? Non si sente definire il suo sindaco. Sindaco di Padova. Non è il suo sindaco. Non è il suo sindaco. Non ho votato. No, però non, è, non ce la fa a dire è anche il mio sindaco. Non ce la fa. Non not ce in la my fa. Name. Non ce la fa, vabbè. Che no, è il sindaco. Ci ho provato. Ci sono delle persone che evidentemente, perché quando uno è... Ho provato, provato a dirlo. No, però non, c'è, non, c'è, non, non le viene, non le viene. Tecnicamente è il sindaco di Padova. Io devo dire la verità, sono molto più, non avendo la militanza politica di Zanonato, non essendo impegnato, sono molto più cinico da questo punto di vista. Cioè penso che il sindaco della mia città, qualsiasi sindaco sia, anche se non l'ho votato, è automaticamente il mio sindaco e spero che faccia bene. Che vi devo dire, ragazzi, è così, è quello, credo che lo pensi pure, pure Zanonato. No, ma che... lo penso sicuramente, io tengo la mia città, se posso dare una mano alla mia città indipendentemente dalla maggioranza, dalla maggioranza cerco di dare una mano alla mia città. No, non esiste che io sono contro i padovani e la città di Padova. Vabbè, questo... ecco, quindi da questo punto di vista sono anche una persona collaborativa. Dopodiché non posso condividere un animo che mi pare un animo violento e in qualche modo cattivo nei confronti di gente che ha bisogno di essere aiutata, oppure di gente che la pensa in un modo diverso, che non ha bisogno di niente ma la pensa in un altro modo. Gli islamici, dice lei. Senta, ma se, parlando di politica nazionale, ma lei vuole anche lei stare sul carro, anche lei? No, non è un renziano doc. So che non è renziano. Lei vuole morire renziano o no? Allora, si morirà renziano. Io ho appoggiato, come è noto, Bersani. Bersani. Ho appoggiato prima Bersani e poi successivamente Cuperlo, Gianni Cuperlo, e ancora adesso resta legato a una tradizione. Questo non mi impedisce però di vedere che il risultato straordinario che abbiamo avuto all'elezione è dovuto a Renzi, e questo gli va riconosciuto, e di vedere questo suo sforzo innovativo. Quindi non sono renziano, però non sono contro Renzi. Oggi per esempio è andato da Vespa invece di fare questa cosa qui alla, così alla conferenza qui, stampa finale. Sì, l'ho sentito, che c'è stata questa polemica. È molto, diciamo la verità. L'ho letto su Twitter. Non è abituato a questo stile di comunicazione di Renzi. È una cosa nuova, non siete abituati voi vecchi comunisti. Primo, diciamo, beh, perché vecchi? Vecchi nel senso di militanza. Di tradizione. Di militanza. Allora, non sono abituato in effetti a questo stile, però lo capisco anche, se lui vuole andare da Vespa, diritto... Sì, no, questo sì, però le priorità sono altre, no? Adesso la conferenza stampa chi se ne frega, stiamo esasperando una cosa che la conferenza stampa era una... No, anche perché se ho visto bene quello che è successo, quando è arrivato i giornalisti gli sono andati incontro e un po' di battute le ha fatte, sì, sì. Poi all'incontro ha parlato e i giornalisti erano presenti in Parlamento, la seduta pubblica, quindi non so che altro doveva dire ai giornalisti. Beh, qui è una tradizione di che un'Europa che soprattutto visto che l'Italia guiderà il semestre di presidenza europea, è una tradizione. In un momento come questo, tant'è che a un certo punto Schulz ha detto però, che gli impegni del presidente Renzi, più di Schulz poteva Vespa, non consentono di fare questa cosa che era prevista, che è una tradizione. Può essere anche che la faccia appena ritorna. Vabbè, senta, lei e Galan, insomma non siete andati mai d'accordo. È venuto da noi l'altro giorno, si è difeso, è semplicemente in questo momento un imputato, indagato, probabilmente sarà arrestato. Lei fosse alla Camera, darebbe... Se io fossi alla Camera... Darebbe l'autorizzazione all'arresto? Allora, la prima cosa per parlare di questo è studiarsi bene i documenti. Io in questo momento ho letto solo i giornali. Sì. E sulla base dei giornali emerge un quadro molto preoccupante per lui. Sì. Dopodiché l'ho sentito anche intervenire con grinta per difendersi e oggi... Ha apprezzato questa grinta? Ma un certo coraggio l'ho avuto. Perché prova pietà oggi, tenerezza. No, pietà no. Io oggi, prima di fare qualsiasi cosa, mi studierei bene i documenti. E poi prenderei la decisione con grande libertà. Ma va tolta, siccome si parlava anche di immunità, questa sorta di passaggio, secondo lei, va mantenuto di immunità sull'arresto per i deputati, per i senatori? Adesso lasciamo perdere il Senato nuovo, eccetera. No, calma. Allora, la questione immunità al Senato... In generale, sì, ma l'immunità al Senato è legata, perché la vogliono fare uguale a quella della Camera. Io trovo che un organo legislativo che ha un potere particolare all'interno di uno Stato debba avere anche delle garanzie. Questo è poco, ma sicuro. Che queste garanzie consentano gli abusi, no. No, d'accordo, quindi, ma l'immunità all'arresto va mantenuta, quella che c'è adesso, va bene? Il meccanismo, così come è pensato, non è male, perché è diverso da come era una volta. Allora, primo, il magistrato può indagare fino in fondo, quindi le indagini... No, ma una volta no. Sì, una volta certo. C'era l'autorizzazione a indagare. Anche alle indagini. E quindi già questo è un passaggio fondamentale. Che c'è stato. Quando arrivo e dico... ho bisogno di una misura cautelare nei confronti, mi pare giusto che il Parlamento si esprima con una sola valutazione, non di merito, quello del fumus persecutionis, ma quello di verificare se per caso un potere dello Stato vuol soverchiare un però altro potere dello Stato. Però lei sa benissimo, Zanonato, perché non è, è un uomo di mondo, che in questi casi le valutazioni non sono nel merito, perché sono non è più che politiche. Non è che uno si può leggere 1000 pagine di indagini, il fumus persecutionis, in realtà le valutazioni sono politiche. Ma no, è politica. Lei manterrebbe comunque questa sorta di privilegio che c'è per i deputati, perché altri delle indagini mosse sono in galera, e Galan no. Attenzione, cioè, se non fosse deputato sarebbe stato arrestato. Allora, attenzione, cosa c'entra? Infatti Orsoni cosa c'entra? No, un attimo. Allora, il deputato non è che in questo modo viene garantito come persona, è l'organo legislativo che si autogarantisce. Lei la manterrebbe questa cosa qua? Io penso di sì, che dunque, sia una cosa... Dunque, per il nuovo Senato la considera, in questi termini la considera giusta. Il nuovo Senato va visto quali funzioni esplica, perché un conto è la Camera legislativa che dà il consenso al governo e che quindi dà la fiducia, un conto è un organo in cui l'elezione è di secondo grado, appunto, dove... non c'è una particolare infatti tutela da garantire. Non capisco perché la vogliono fare uguale a quella della Camera. Se parliamo della Camera la manterrei, se parliamo del Senato mi pare che il nuovo Senato non abbia le caratteristiche di una Camera legislativa che dà il consenso al governo, cioè che gli dà la fiducia. E dunque, che serve la è come mettere esagero al sapete che c'è un organismo che tiene insieme gli enti locali, le regioni e il governo, no? È come dare l'immunità alla conferenza Stato-Regioni. Gli diamo l'immunità alla conferenza Stato-Regioni. Non serve. L'immunità va garantita a un organo costituzionale che ha funzioni fondamentali. Ma le piace questa riforma del Senato, uno di quelli scettici? Mm. Allora, ho qualche dubbio su questo tipo di riforma del Senato. Ho qualche dubbio. Però penso che la cosa fondamentale verrà portata a casa. Cioè il monocameralismo, le piace o no il monocameralismo? Oddio, adesso siccome sono abituato a dare giudizi dopo aver approfondito le cose, siccome questa ipotesi non è mai stata presa seriamente in considerazione e quasi tutti i paesi democratici hanno due camere, compresi gli Stati Uniti d'America, il modello in cui c'è una camera in cui si esprimono anche le istanze locali può essere un modello interessante. Mi pare che vada bene. Cioè l'elezione indiretta e non l'elezione diretta. Ecco, sull'elezione ho qualche dubbio. Cioè lei manterrebbe l'elezione diretta? Per esempio, il numero dei, troverei interessante fare un'elezione che si fa durante l'elezione dei consigli regionali e a fianco all'elezione ci del consiglio regionale mi voto anche i senatori, ma non affidare questo compito ad un'elezione indiretta dove possono capitare le cose più curiose. Senta, un'ultima cosa, Galan, poi non mi è chiaro come fanno a essere eletti i sindaci, perché c'è una componente di sindaci, ma allo Stato mi pare di capire, ma non ho approfondito, che dovrebbero essere i consigli regionali a votare i sindaci, e la trovo una misura curiosa. Speriamo che la Boschi ce l'abbia chiaro, il ministro Boschi, diciamo, il meccanismo. Non è stato troppo affrettato a dare un ministero così importante? Non decide lei, diciamo la verità. Lo sappiamo tutti. Beh, la Boschi ha dimostrato una grinta e una capacità di come donna immagine, sì, certo. Oggi notevole. Era al Palio di Siena, per esempio. Altre volte al Palio? Sì, al Palio. No, ma non correva, però. No. Era un fantino. Fantino no. Però è un po' utilizzato come donna immagine del governo, diciamo la verità. Oltre che come ministro delle riforme. Oggi era al Palio, l'altro giorno era... Quella volta che hai la donna immagine, insomma, perché non usarla? È una bellissima ragazza. Una volta che hai una donna bella, usiamola. Possiamo dire che la sinistra è una bellissima. Non è una bellissima donna, però non è solo bella. Io ho avuto modo di confrontarmi e di parlare con lei qualche volta, mi ha fatto un'ottima impressione. Nel passato non era così, non avevate donne belle nelle istituzioni. Beh, la Iotti, oddio. La Iotti è bellissima, la Iotti era bella. Avevamo donne belle e di carattere, come con uno stile più classico, meno giovanile. Senta, secondo lei Galan si è arricchito con la politica? Col Mose, nella vicenda del Mose, me lo dica sinceramente quello che pensa. Si è arricchito personalmente. Non vuole infierire su Galan. Allora, umanamente dice quando mi avete chiesto di Galan, preferirei non parlare, spiego perché. Perché non mi piace quando uno è in difficoltà infierire. E allora, sul fatto se si è arricchito o non è arricchito, deciderà la magistratura, dai. Grazie. Possiamo deciderlo noi. Grazie, Flavio. Grazie, Donato. Fa male solo a chi non sa ridere. Volevo salutare affettuosamente Cruciani e il piccolo Parenzo. State scambiando pure le cose. Ma vi state scambiando i numeri di telefono? Che cosa? Ma siete in onda? Ma vi state scambiando dove andare a cena stasera? Parenzo, dai, su. Fra poco tutti gli ascoltatori: Roberto dalla provincia di Varese, Marco da Brindisi, Sergio dai Serni, altri ancora. 800 24 00 24. Mentre Parenzo limona con Flavio Zanonato. Ma guarda che. Ma dateci un bacio. Datevi anche un bacio. Guarda, io ero vergogna, a scuola, vergogna. Al liceo con il figlio di Zanonato, che felicemente è sposato da tanti anni con la signora Lella, che salutiamo. Poi fissato con l'omosessualità tu. Io sì, perché tu ogni trasmissione, ogni cosa. Ciao Flavio. Ogni cosa che salta fuori devi sempre mettere dentro l'omosessualità. Ma sono un'ossessione. Sei peggio di Gasparri proprio. Ho un'ossessione. Allora, prima però voglio riproporre il sobrio Borghezio di ieri sera. Possiamo riproporre il sobrio Borghezio? Sì. Dopo Zanonato voglio sentire Mariano. Ci prendono in giro in tutte Europa. Poi tutti gli ascoltatori, Nicola da Pavia, Isernia, Marco da Brindisi e gli altri, li abbiamo fatti aspettare un sacco di tempo, devono venire tutti a parlare qui, tutti. Apriamo i microfoni fino alle 20:50. Apriamo i microfoni. Ricche, sorprese, cotillon, tutto. Inizia il cinema, inizia il circo! Borghezio! Per fronte nazionale ci vorrebbe anche adesso, eh. Sì, un fronte nazionale, un fronte nazionale. Anche da noi, come in Francia, un fronte nazionale! Servi di Roma fuori! Senza dubbi neri, pensamenti! Pazzesca, proprio, pazzesca! Allora, Padania bella e libera! Guarda, Bitonci! Abbiamo un po' un'ossessione di Bitonci però noi qui alla Zanzara, oggettivamente. Fermo, non toccare. Pensieri, pensamenti. Padania bella e libera. Ma senza rom. Guarda oltre i monti. Non permettere al tiranno di accecarti. Di scipparti. Oggi lo sai che non abbiamo audio di Pellegrino, di Verino, sono un po'. Mi sento quasi male, lo sai? Io non sento male. La mancanza. Se su 5 giorni su 7, diciamo, no? Tu ce lo ripeti. Ma è la nostra rubrica. Le rubriche sono le rubriche, non c'è niente da fare. Borghezio, che sobriamente ha detto che il sabato. La Camera dei Deputati, io voglio dire a Marione, io ho detto anche, scusa, ma perché devi aprire per te? Sei certo. Deputato europeo. Ma poi pagati un ufficio, scusa, perché devi andare da ex deputato alla Camera a ricevere le persone? Sentiamolo, va. Il sabato, forse la signora Bordini non lo sa, Ma la Camera il sabato non fa un cazzo. Niente. La domenica già si sapeva, ma adesso neanche il sabato, una volta era aperto. Cioè, che è successo? Adesso io mi sono presentato per il cielo, la gente, ho dato appuntamenti, li ho dovuti ricevere raggiolitti. Non si fa un cazzo alla Camera il sabato! È una vergogna! Capotri, tu non fai un cazzo tutto l'anno! No, non si ma può. Almeno il personale fallo lavorare il sabato, che ci sia l'apertura! Magari... La casa della democrazia è chiusa! Come le case chiuse! E cazzo! Detto sempre con sobrietà e pacatezza. Certo, grazie. Con grande rispetto per l'istituzione. Caccia oltre il fiume. Ma poi ieri a un certo punto ci ha dato una notizia, cioè che lui ha cacciato Annarella. Scusa, Parenzo, ci ha detto che ha contribuito a cacciare. Effettivamente mi hanno detto che Annarella non c'è più davanti alla Camera. Mi riferiscono che non si presenta più a rompere i coglioni là ai deputati e ai senatori davanti alla Camera. Un attimo, fammi sentire questa cosa. Leggo questa barzelletta strepitosa su Strasburgo. Strasburgo, i deputati di Farage durante l'inno alla gioia, che è l'inno dell'Unione Europea, si sono girati dando le spalle. Vabbè, risponde l'altro, perché... vedrai come si girano di qua quando ci sarà da riscuotere lo stipendio. Senza dubbi né pensamenti. Cioè, tu stai dicendo che quelli di Farage fanno gli anti-europei, certo, contro l'inno alla gioia, e vogliono distruggere. Sono qui oggi, che ti ha detto Farage? Che ti ha detto? Farage? Che ti ha detto? L'ha intervistato? Che sì, ti ha detto? Sì, sì. Che è qui per. Mi piacerebbe trasformare questo in una grandissima enoteca, ha detto. No, veramente ha detto sì, così. Ti giuro. Vedrebbe, lui, grande bevitore. Guardava il Parlamento di Strasburgo, no? E diceva, beh, molto bello, sì, qua. Gli dico, ma queste sono le istituzioni, le batte il cuore. Dice, no, a me fa schifo. Sarebbe bello trasformare in un grande centro commerciale, anzi meglio in una enoteca. Beh, grande bevitore. A Matrix domani su canale 5 sentire. Vabbè, mamma mia, sempre a leccare il culo. Ma a chi? Ho dato un'informazione su un servizio che ho fatto, che leccare, proprio fissato con queste cose sessuali. Annarella, Borghezio e Annarella, dai. Vai vedere. Io la farò aprire. No. Ho già cominciato con Annarella. Annarella che c'era permessa di rompere il coglione persino a Bossi. Che ha fatto? L'ha messa in riga subito. Immediatamente. Cioè, che ha fatto? E moderatamente ho detto, ricordatevi una cosa. Davanti al Senato francese nessuno si permette, appena arriva un deputato, ah, Borghè, pezzo de merda, eccetera eccetera eccetera. Ci deve essere oggi. Diciamo che lei non è un lord, però. io ho accennato garbatamente, alla migliore scuola inglese delle competenti autorità, ho detto da oggi c'è l'ordine Borghezio davanti alla Camera. E quale sarebbe? Annarella non si trova. C'è l'ordine Borghezio. Allora, restate con noi perché abbiamo da mandarvi, no, prima voglio sentire gli ascoltatori. Abbiamo Borghezio che esalta i fascisti, questo diciamo la verità. Questo però è vergognoso. Delle chiaie e il principe Borghese. Che chiama comandante. Che chiama comandante. Delle poi addirittura che dice Dio stramaledica Farage e quelli del partito l'inglese. Di Farage. Una cosa incredibile. Fra poco sulla Zanzara. Intanto Nicola da Pavia, buonasera. Poi Sergio, Isernia, Edoardo, Modena, Marco, Brindisi, Alessandro, Pordenone. Ma chi è sta gente? Tutti con noi. Ascoltatori, no, gente che ti paga, gente che ti dà i quattrini per campare. A questi non mi danno una lira. Sì, ti danno nulla, i soldi, ti danno nulla. I soldi. Vergognati. Nicola, dimmi. Buonasera. Dimmi, dai. Buonasera. Dai. Senta, sì, certo che dopo aver ascoltato le parole di Borghezio di buon anno prima... Anche beh, c'è stato anche il signor Zanonato dopo, sembra, sembra uno statista incredibile, cioè Zanonato sembra uno statista. Beh, ma insomma, è una persona beh, insomma, tu sei amico suo, non puoi parlare, zitto. Ma no, ma anche oggettivamente hai un conflitto di interessi. Sa che praticamente Parenzo era un sottoposto di Zanonato. Sottoposto di nessuno. Sì, eri un sottoposto, Non mai sei stato iscritto al partito di Zanonato. Non sono mai sottoposto di nessuno. Io mi sono iscritto a 18 anni al partito comunista. Non c'era il partito comunista. Vabbè, purtroppo PDS, mi sono iscritto al PDS. Sono stato anche eletto in circoscrizione a Padova. Sono stato capogruppo mamma del PDS mia. In circoscrizione. Che bella cosa. Ho montato le feste dell'unità. Mamma ho mia. Cucinato alle feste dell'unità, ho lavorato e ho fatto i tortellini alle feste dell'unità mamma per tanti mia. Anni, ho fatto i responsabili esteri al PDS quando la signora segnate Mogherini, tutto, segnate Riccardo chiama ti prego Riccardo Mogherini, dove sei? Riccardo da Roma non dove nulla sei? Nulla di cui vergognarmi, in gioventù ho fatto politica, perché tu non hai mai fatto politica da giovane? No, Nicola, non hai mai fatto dai. Sempre qualunquista no, schifo. Ah, dai Nicola, sei sentire. Stato radicale da giovane. Mi fai sentire Nicola o no? Dai Nicola. Che orrore. Posto di pannella eri, amante di pannella sei stato. Hai dormito, mi fa fai, adesso mi fai ricordare, mi fai arrabbiare. Però ho dormito con Pannella. Hai dormito con detto. Marco Pannella una notte. E allora? E non si sa che cosa hai fatto. No, si sa, te lo dico io. No, chi c'era lì a testimoniarlo? Ma, nessuno. Nessuno. Non si sa che hai dormito una notte con allora? Marco Pannella e rompi le scatole a me che da giovane ho fatto politica con il centro-sinistra, con il PDS. Hai dormito con Pannella la notte. Dalla notte in un albergo. Tu e Marco Pannella da soli in una stanza da letto. È normale? Certo, è normale? Certo. Io con Zamorato non ho mai dormito, ad esempio. Guarda un po', guarda che ti dico. Io... Scusate se vi ho disturbati. Appunto, vedi il tuo amico. Dai, Nicola, su, mamma mia. Dai, Nicola. Non so, io sto ascoltando con attenzione il curriculum vitae del dottor Parenzo. Che ha fatto anche altre cose poi, eh? Ha un po' di confusione, diciamola tutta. Diciamola tutta. Vabbè, allora. Un po' di confusione. No, ecco, insomma, qui siamo di fronte veramente al delirio totale tra Buonanno, Borghetto. Cioè, bravo, bravo. Scusi? Vabbè, poi... Poi... delirio totale, questi qui sono assolutamente da delirio. Cioè io adesso non so, io ho ascoltato un pezzettino dell'intervista di Buonanno, non so se l'ha detto lui o se gli avete suggerito voi, no, addirittura un'ingiunzione per chi in un parco pubblico si bacia. Cioè io posso andare fuori con la mia compagna, non posso dargli un bacio appassionato, no, perché lo faccio. Ma no, ma diceva i gay, diceva i frosci, ma non gay, diceva ma gli altri. Senti la cosa, i gay, perché, cosa, ma scusi, dottor Cruciani, ma se lei era un bambino piccolo, vede due che si danno un bacio, cosa dice? No, non guardare quei due lì che si stanno baciando, si stanno volendo bene, è una cosa, cioè io non riesco a capire, ma di che cosa cazzo stiamo parlando? Di che cosa? Di bambino, non guardare. Sergio da Isernia, Sergio da Isernia. Sergio? Sergio? Dai, rimettetemi in onda questo qua, Sergio, Edoardo Modena. Edoardo? Speriamo che... Sono qua, mi senti? Dai, dimmi. Sì, chi sei, Edoardo o Sergio? Edoardo, mi richiamo ogni tanto perché, guardate, per ora devo dire una cosa subito, un flash su quel mentecato di Parenzo, il quale vorrebbe mentecato? Dire... Buonasera, siccome... piacere Parenzo, mi saluti la sua caro, famiglia, che spero stia bene. Caro, no, ma sai, mentecato non è un'offesa, vuol dire che hai una scarsità di materia cerebrale. Sì, lo dimostra la boiata che hai detto poc'anzi. Nobel. Sentiamo il Nobel. Beh, io guarda, ho fatto il direttore di una struttura di chirurgia, ho fatto 12.000 interventi chirurgici e non ho beccato una denuncia per ora. Quindi beh, ci sono anche dei medici imbecilli, ci sono anche dei medici cretini, bravissimi ma cretini, non dico no, che è il suo caso, per carità. Addirittura delinquenti, perché ho tirato io delle gazze dalla pancia della gente, però non parliamo delle cose che dobbiamo. Comunque andiamo allora, avanti, Parenzo, andiamo al punto. Ha appena teorizzato, io ho mentecato, scusami, sì, ma non è un'offesa. Io sì, ha prego, teorizzato professore. Che è un'offesa mentecato. Alla... Prego, prego. No, non è un'offesa. No, allora minus allora, beh, lo stipendio in Europa dovrebbero beccarli solo quelli della maggioranza, l'opposizione no. Siccome quelli di Farage no, sono girati, l'ho detto come allora lei veramente non capisce un cazzo. Perché Parenzo, l'ho detto usando. Lei sa qual è l'origine della parola ironia? Si chiama ironia, Parenzo, che in greco, visto che lei ha studiato come me, si chiama ironei. Ironia, qual è il significato greco etimologico della parola ironia? Non facciamo una qual è il significato, professore? Professore volte, che toglie le gambe dalle pance? Guarda, come si chiama? Come si traduce in italiano? Io per ora non ne ho lasciate. Ironia, guarda, lei per conosce per l'ironia? Sa cos'è l'ironia? La conosco lei? Bene perché ho studiato di greco e di latino, come diceva. E allora, se Carducci, sa cos'è l'ironia, capirà facilmente, ma non credo a questo punto, che la mia era una battuta. Caro. Poi può piacere o non piacere, guarda, ma era una battuta ironica. Europa, dai, parliamo di Europa perché io non ho... Vabbè, chiudiamo, dai, forza. Chiudiamo, dai. Se mi nasce un figlio portatore di handicap cerebrale, io ti voglio più bene. Che Dio ti voglio più bene, Parenzo. Ti amo più di quello che voglio bene. Essendo anche medico, Sì, mica pensando battute sui disabili. Ha fatto battute sui disabili, pensando di fare una battuta divertente. Assolutamente, questo lo dite voi, forzature. No, l'ha detto lei poco fa, ma io siccome non mi offendo, perché non sono una persona che si... Vabbè, che volevi dire sull'Europa? L'Europa. Dai, forza. Io l'Europa ho sintetizzato dicendo che è un'associazione per delinquere e rifacendomi in questo al codice italiano che però ricalca il diritto romano. Quindi mi dica dove troviamo. Opera lei, perché prendo, diciamo, se mi dovesse mai capitare mi faccio trasferire a 500 km di distanza per sicurezza. Fai solo bene, vai tranquillo, bene. Non ti preoccupare. Ma se lei avesse, so se lei avesse sotto i ferri il signor Parenzo, cosa... Mettiamoli. curerei. Se lei avesse sotto i ferri Parenzo, cosa farebbe? Io non finire mai sotto i ferri di nessuno. Vogliamo parlare del motivo della telefonata? Perché io il mio lavoro lo faccio seriamente, in maniera riconosciuta, tra l'altro, non solo da me. Io ho lavorato anche all'estero, in Francia. L'Europa è un'associazione a delinquere, dunque che vuol dire? Ho lavorato 3 anni in Iran. Che cazzo c'entra? Ho lavorato 3 anni in Iran, ho fatto il militare a Cuneo. È come dire, ho fatto il militare a Cuneo, dai. Ma mi ci tira Parenzo, fatemi dire dell'Europa che è più importante. Io si sono cagato. Che vuoi dire sull'Europa? Scusate, allora, perché associazione delinquere? Certamente una frase forte, ma perché con questa, io se mi riferivo, ho chiamato quando c'era Bonanno che parlava, ma ovviamente il Mare Nostrum era un'idiozia che si sapeva già all'inizio come sarebbe finita, e che l'Europa se ne sarebbe strafottuta, lo sapevano tutti. Guardi, sull'Europa, ragazzi, con me sfonda una porta aperta, sulla farsa, guarda, Europa, la farsa Europa, con me sfonda una porta aperta, sulla, allora, farsa che Europa, io non parlo questo di... palazzo enorme che costa un sacco, certo, di soldi, bisogna fare una spianata. Ma diglielo ai francesi, una grande spianata. Diglielo alla tua amica Le Pen, certo, l'unica che non vuole, perché non è mia amica, sì, una, sì, grande, beh, spianata dei tuoi amici, una grande Lega, spianata. Gli unici che non vogliono cambiare il trattato sono i francesi, perché difendono il fatto che ci sia la seconda sede a Strasburgo. Vergogna, e paghiamo noi, ma diglielo ai tuoi amici francesi, troppi francesi, funzionari, troppi dipendenti, troppi burocrati. Ancora a casa, Simo. Dentro il mio giardino ruggisce tutta la notte. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Ho assistito, cari amici, a una telefonata molto tenera tra David Parenzo e la figlia che conosco, è la figlia Margherita, che era affranta dal fatto che, no, questo lo possiamo dire, un bel racconto, un racconto umano di grande umanità, non si racconta niente di particolare, era affranta, grande tifosa della contrada dell'Aquila che non vince, tifosa non si dice, da una ventina di anni. Vabbè, io lo dico perché tutti capiscano, sì. Cioè, in senese non so come si dice, insomma, come si dice? Non si è tifosi, si, vabbè, è dell'Aquila. Benissimo, appunto, allora, basta, tifosa, insomma, della contrada dell'Aquila, bambina piccola di 8 anni, 9 anni, tifosa o comunque, insomma, appartiene, sì, alla contrada dell'Aquila di 7 anni, che era lì sugli spalti insieme agli altri bambini della contrada dell'Aquila vestiti di giallo e di nero, perché ho assistito anch'io a queste cose, sì, una cosa questo... meravigliosa, bellissima, e purtroppo era affranta perché stava per vincere. Perché per due giri l'Aquila era prima. Ma e poi ha vinto il drago, la contrada, ha vinto del il drago, drago. Ha vinto, che non è la nemica dell'Aquila, che bravo, è invece la pantera, bravo, se non sbaglio, esatto, bravo, invece ha vinto, e dunque, sì, c'era questa bambina distrutta, no, col papà, che cercava di consolare, era dispiaciuta, beh, certamente, come, ma è bellissima questa cosa, ma perché il palio è una cosa bella, che ne dicono alcuni politici che, esatto, lo vogliono, esatto, che lo, dunque, vogliono, la notizia, eliminare, è questo. Parenzo, due punti: mia figlia era distrutta per la sconfitta dell'Aquila, distrutta, era un po' dispiaciuta. Parenzo, due punti: mia figlia Margherita distrutta, sì, per la, secondo te, per la sconfitta. Adesso stanno riaprendo il Corriere della Sera, probabilmente le rotative del Corriere le stanno fermando, dici, no, un momento, perché forse c'è. Alessandro da Pordenone, no, chi c'è qua, chi c'è, ragazzi, non dico più, non però appello agli ascoltatori, no, Marco da Brindisi, dite cose intelligenti, Marco, prego, da Brindisi, una, dai, cosa intelligente, ditela, Marco, perché sennò da chiamano Brindisi sempre certi matti, dai, forza Marco, dimmi, dimmi. Facciamo stare zitto il parenzino lì. Allora, vai, Giuliano, io chiamo perché tu devi chiedere scusa, guarda, per favore, devi chiedere scusa al popolo meridionale, te lo dico educatamente, devi finirla di fare i tuoi giochetti, giornalista, da radio amatore, che lascia sempre quel... Innanzitutto, radio amatore, abbassa il volume, togli il volume, spegnilo, spegni direttamente la radio, già questo... Voce, questa. È la mia voce. Ho capito, ma vabbè, allora... Allora le sto dicendo che lei in qualche modo continua a offendere i meridionali. Non ho parlato di nessun meridionale. Ma quando è che ho offeso i meridionali? Ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Quando è che li avrei offesi? Qualcuno dice spenga la radio. Non ho la radio, sto all'aperto, al policlinico. Sì. Quindi, vabbè, se vuole, Marco, venire, cosa vuoi dalla mia vita? Allora, cosa vuoi dalla mia vita? Cosa vuoi dalla nostra che vita? Che lei continuamente continua a mandare messaggi offensivi verso i meridionali. L'ha fatto quando mai? Ma non abbiamo proprio parlato, sì, quando lei parla di un accento napoletano dell'ex prefetto di Perugia, quando lei il 4 novembre. Cioè, non è razzista, per carità, l'avesse fatto un mio. Lei parla tutti i giorni. Vabbè Marco, mi hai rotto i coglioni, dai, fammi sentire Roberto da Milano. No, lui dice cosa. Tu parli tutti i giorni con l'accento romano perché il prefetto sì. Di... Ma quello è il prefetto, mica è il conduttore radiofonico. Il prefetto di Perugia non può parlare. Ma io non ho detto che non può parlare, ho detto che le espressioni che ha utilizzato con quel dialetto, secondo me non sono appropriate per un prefetto della Repubblica. Comunque Roberto da Milano, dai Roberto. Sì, allora io vorrei chiedere, io sono Roberto da Milano, vorrei chiedere questo a Parenzo... Sì. ha appena ricordato che distribuiva il cibo alle feste dell'unità, vorrei chiedere al mancato dottor Parenzo se almeno aveva il libretto sanitario, perché chi distribuisce il cibo dovrebbe avere una certa conoscenza di ciò che fa. Guarda, e viene attestata dal libretto sanitario che rilascia. Guarda, come lei sa, si può far polemica su tutto e mi fa piacere, è divertente. Avevo tra i 18 e i 22 anni quando facevo il volontario militante alle feste dell'unità e servivo ai tavoli. Avevo i capelli coperti con un coso in testa, come si dice, come si usa nei ristoranti. Non avevo nessun tessino sanitario perché per le feste della Lega, come per le feste dell'unità, come per tutte le feste popolari... Ma che gliene frega a lei se aveva il tesserino sanitario? Sanitario quando serviva il cibo alle feste dell'unità, che gliene frega a lei? Perché sono fuori legge. Ma chi se ne frega? Ma sarà successo vent'anni fa. Ragazzi, un altro personaggio italiano che si è fatto riconoscere non è solo prima Bonanno qui all'Europarlamento, ma addirittura ai mondiali. Un signore che si chiama Ferri, di cognome Pescarese, detto Falco, ha praticamente fatto finta di essere un disabile, ha fatto un'invasione di campo durante la partita Belgio-Stati Uniti, capito? E con una carrozzina, signor Ferri. Musica, Ken Falco. Il suo nome è Ken Falco, non lo batteranno mai, quello che fa Ken. Allora, dice anche che si sente un po' in colpa, ma lotta per i deboli. Ma cosa lotti per i deboli? Ma perché? Ma no, fai l'invasione di campo per essere riconosciuto, per farti pubblicità. Ma dice che vuole fare... Che è un clown anche lui. Sì, ma certo, assolutamente. Il fatto di andare a prendere i biglietti alla FIFA sempre sopra questa sera a rotelle, un po' mi sento in colpa per questo escamotage particolare, attenzione, perché sono molto... ho una morale molto... lotto per i deboli da sempre. Queste cose mi fanno impazzire. Lotto per i deboli, ma lotta per i deboli dove, quando, perché? Cioè fai delle sceneggiate, cioè, io dico, facendo queste... l'invasione di campo perché vuoi farti notare, punto. Se queste provocazioni servono a qualcosa, benissimo. Ma servono se a cosa? Servono a gettare una luce sui disabili, allora questo può essere utile. Se sono solo pagliacciate pro domo sua, rimangono delle... è ancora più grave, perché si strumentalizzano le persone con problemi per farsi la carriera politica. Allora se è così è grave. Se invece si è portato la sedia rotelle dall'Italia, dice, sentiamo. No, ma se questo servisse a qualcosa, va bene, per sensibilizzare il mondo, sentiamo, ma che disabile, Mario, questo Ferri potrebbe servire, però. Beh, c'è stato un lavoro meticoloso dietro, il fatto di portarsi la sedia a rotella dall'Italia. Dall'Italia se l'è portata la Pescara? Da Pescara, fingermi con una gamba rotta, con una fasciatura che la potete pure vedere nelle foto, c'è una fasciatura particolare. Nelle foto su Facebook ho visto che aveva anche un falso certificato dell'INPS in cui si dichiarava invalido. Quella è una magia del mio grafico. Poi dice che ha donato la sedia a rotelle ai ragazzi delle favelas che trattengono il passaporto e gli faranno un processo. Ho mosso qualcosa sulle prime pagine. Ma hai mosso per te stesso, dai, su, a Ferri, ma non ci pigliare per il culo. Voi veramente credete che uno faccia queste cose per sollevare dei problemi? Beh, magari sì, qualcuno sì. Vediamo cosa farà quando tornerà in Italia questo signore. Le prime pagine dei giornali. No, poi dice sul processo no problem, sono Superman. Dai, su, è preoccupato per questo processo? No, diciamo un po' come ho risposto a un cronista qua, no problem, I'm Superman. Dai, su, ragazzi, è una buffonata, dai, su, è una buffonata, è chiaramente una buffonata. Alessandro Pordenone. Oh, pronto, sono io? Pronto. Vai, sì, fino a prova contraria. Beh, lei, sì. Cruciani. Bravissimo, ti seguo da un po' di tempo a singhiozzo, mi sei sempre stato simpatico, ma stasera... Ah, c'è un messaggio per Ciro, aspetta un attimo, un messaggio per Ciro, questo Mario Ferri dice di aver voluto mandare un messaggio per Ciro, cioè per quello che è morto, questo era il messaggio per Ciro, quello che è morto. Cioè, non c'entra un cazzo. Allora basta cazzate, dai, su. Forza, Alessandro. Dicevo che questa sera sei riuscito a farmi non ridire, Cruciani, quando hai detto che tu sei estremamente a favore, super favorevole all'adozione nelle coppie gay. Assolutamente, secondo sì, me, l'ho sempre detto. Certo. Amica. Adesso ti esprimo la mia opinione, e se diciamo a tutti alzate le mani chi è d'accordo con me, io sono sicuro che ti sputtano, perché è un atto estremamente egoista, è la cosa più egoista che io posso fare in questo mondo qua. Se due omosessuali o una coppia omosessuale vuole adottare qualcuno, va nei negozi, va al Toys, va ai supermercati, si compra un bel ciccio bello e fa esperienza col ciccio bello, ma non un bambino deviato. Ma cosa c'entra il ciccio bello adesso? Cosa c'entra il ciccio bello? Dai. C'è un ordine naturale delle cose, c'è un ordine naturale. L'ordine naturale, ma chi parte, l'ordine naturale, Hitler parlava di ordine naturale, dai. Per ottenere qualcosa, dai, su. Io credimi che sono estremamente tollerante, te lo assicuro, io se vedo un bisognoso, magari fermo la macchina, gli do anche soldi, lo aiuto. Ma in queste cose qua, davvero, essere così egoisti da pensare di allevare un bambino all'interno di una coppia omosessuale è una cosa che davvero mi fa venire i capelli lisci, e io ce li ho ricci, fortunatamente. Ok? Vabbè, in questo senso qua, Parenzo si è dimostrato più avveduto di te, perché lui ha dei dubbi in merito. Io sono sconsiderato, ho dei dubbi, certo. Sono sconsiderato, certo. Come sempre. Matteo da Padova. Parenzo. Matteo. Grazie. Sì, buonasera. Matteo, volevo spiegare al nipotino di Zanonato, che è lì in trasmissione, perché apprezzo Padova la sua ironia. Sì, lo so. Ti spiego subito. So. Più vuoi parlare, più gente come lei, Radical Chic, come lei, Radical Chic, come concordo. Toscani. Non è che se uno non vota Bitonci è Radical Chic, beh, anche questo meriterebbe rispetto. No, lei è Radical Chic, eh. Perché io sono di Padova, l'ho conosciuta e posso dire che lei ma è quando, Radical Chic. Quando mi avrebbe conosciuto? Radical Chic un corno, perché sono andato a Padova. Ma non andava al Tito Livio ancora, quindi parliamo degli anni che furono. Perché non si può andare al liceo classico, non ho capito. Perché è Radical Chic andare al liceo classico, non ho capito. No, lei è un Radical Chic. Comunque, più voi parlate della Lega in termini di subumani, di gente idiota... Io non ho detto subumani. I crepecchi, la io detto, non ho definito i leghisti Toscani, subumani, mai. Toscani. Vabbè Toscani comunque parla malissimo... Comunque parla malissimo dei leghisti in generale, che non capiamo io niente. Io vado nel merito di alcuni provvedimenti. Sì. Io che se è ancora punto, possibile a Padova in tutta Italia criticare alcune cose, è possibile? Perché fa la trasmissione chiamando dalle colline toscane, bevendo il vino. Ok? Noi invece siamo qua in questa città, la viviamo tutti i giorni con i problemi. Io bevo il vino, quando mi pare come lei beve il vino alle feste della Lega. Scusi, una straniera, ok? E le posso dire che vivere a Padova non è difficile. In più, se c'è gente come lei, come Toscani, ma ci ho vissuto come a Padova, ma che ragionamenti fa? A parlare male della Lega, vincerà. Ma nessuno parla male della Lega. Anni. La Lega a Padova, senta, amico mio, è più semplice di quello che lei la fa. La Lega a Padova ha vinto. Benissimo. È la democrazia, governa. Mi è possibile criticare, lo farei anche se non fossi padovano, provvedimenti che reputo robe da circo e semplicemente per mettere il terrore e fare e finire sono sui giornali come circo per lei è che da vive in un secondo, altro mondo. Secondo me è da circo. Mettere i cani a pattugliare la città. Secondo me è da circo mettere i cani. Posso dirlo? Posso dirlo? Prendersi un caffè dopo le 10 di sera. Ma vado sempre in centro a Padova anche la notte, ma non faccio il buffone. Dove vai in centro? Dove va in centro? Va a fare il fighetto in centro, lei con i suoi amici là. Guardi. Ma questo non c'entra un cazzo, però. Fighetto o non fighetto? Secondo lei c'è un pericolo per le persone che passeggiano in centro a Padova di notte? Certo, io adesso, la mia ragazza, sono dovuto andarla a prendere all'Arcella, se Parenzo sa dove è l'Arcella, perché l'Arcella non, certo è, non è un quartiere sicuro. Ecco, l'Arcella ho non un è un quartiere sicuro. Ho un sacco di amici all'Arcella e venivo sempre lì al cinema col tram all'Arcella, peraltro. Sì, col tram all'Arcella. Andavo ecco, al cinema all'Arcella. Allora, vada a farsi una partitina al bingo dell'Arcella e vediamo quante bastonate prende, perché non si può più camminare. E Bitonci, senta, se fa patturare la città, ha solo ragione. Evviva Bitonci. Evviva Simone, proprio, provincia di Firenze. Evviva Pannonato, evviva! Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda, ma poi invece si appoggia proprio addosso a me. No. Mario Borghezio esalta i fascisti. Delle Chiaie e poi anche il principe borghese. Partiamo da Delle Chiaie. I brividi mi vengono, i brividi. a fianco al signor delle chiaie. È il comandante. Ma come comandante? Ma lei lo chiama signor. Ma il signor, ma sei il comandante. Ma comandante di che cosa? Io rispettoso. Ma comandante di che? Ma lei scusi, lei un golpe l'ha mai fatto nella sua vita? No. Allora lei è un cazzo, scusi. Uno che l'ha fatto un golpe nella sua vita è un cazzo. Ci è arrivato vicino. Ma lei lo... Ci è arrivato vicino. Ma lo dice con... Sono seria. Ma che seria? Sono seria. Ma è un golpista. Non è facile, ma non che... è facile. Ha tentato. Come seria? Ha tentato. Ha tentato. Ha tentato. È un fascista. Ha tentato. È un neofascista. A me è sembrata una persona moderata. Il principe Fulvio Valerio Borghese. Lo spray. Comandante, perché ha sostituito il vecchio comandante, ha preso il posto del vecchio comandante, è il principe Borghese. Lo vogliamo sottovalutare, il principe Borghese? No, perché quello c'ha due coioni così. Brava persona, che è arrivato un millimetro dal sistemare la situazione. Anni 60, anni ruggenti, quelli erano anni, si faceva la politica. Ma che quella era la politica? Ma quale politica? Colpo di Stato, un bandito, un fascista, quale politica? Oggi siamo tutti più tranquilli. Poi se la piglia con Farage. Dio stramaledica gli inglesi di Farage. Il Dio stramaledica questi inglesi di Farage. Questi, non tutti gli inglesi. Ah, sì, il Dio stramaledica questi inglesi di Farage. Ma come il Dio stramaledica? Come si diceva? Come si diceva? Ancora lei. Quando c'era la guerra, ma c'era la gente. Parlava con coscienza di causa, c'erano proprio... le bombe che cadevano, ma è uno schifo, si sentiva, ma è eccetera, eccetera. Proprio. Questo fare una bella bombettina sulla zucca, che peraltro è vuota, ci starebbe bene. Che poi in realtà non è che siano così diversi, però non si possono vedere. No, perché... non si possono vedere perché no, oggettivamente rappresentano due mondi diversi, perché oggi Farage ha già rivendicato il fatto di appartenere alla City, cioè la grandeur dell'Inghilterra, delle banche. Non è che dice, no, lui anzi, lui pensa che uscire dall'Europa vuol dire rafforzare l'Inghilterra. Oh, ieri la Mussolini che cosa ci ha rivelato, che cosa ci ha detto Alessandra Mussolini? Ci ha detto questa leggenda di Vespa, figlio di Benito Mussolini. Beh no, però un po' l'ha rinforzata questa leggenda, non scherzava troppo. Uno poteva dire tranquillamente no, non è vero. E cioè, lei ha voluto insomma rimpolpare questa leggenda, Vespa figlio di Mussolini. Questa famosa storia di Vespa figlio di è un po' simile, ma secondo lei qui, è vera la cosa? È qui, è dal naso quindi siete parenti in qualche modo. Piega naso labiale, secondo me è un figlio sfuggito. Però dato che io ho fatto la legge sui figli naturali, l'abbiamo messo in regola pure a lui. No, ma lei ha fatto delle ricerche, sì, un po' di ricerche da fare. Ma non faccio ricerche, basta il DNA, si vede in faccia. Si vede in faccia, si vede in faccia. No! Mitico litigio a coffee break tra la conduttrice Fratello e Gasparri. Ma non è Tiziana Pannella? Ma sarà andata in vacanza, no? E non mi hanno detto niente la sette. No, non ti avvertono più. Beh, no, sei fuori. Sei fuori. Siccome però stanno sbarcando altre 250 persone che il senatore Gasparri ha chiamato clandestini, io sono preferisco chiamare persone. No, clandestini non lo sappiamo ancora, magari scappano da una guerra e quindi non, sono solo richiedenti asilo. Per me sono persone, ci sono persone clandestine. Mi dà fastidio questa cosa, no, lo so. Perché sono persone clandestine. Io non riesco a chiamarli tutta l'Africa, se lei è contenta ne ospiti una mattina a casa sua. Ha ragione Gasparri. Sì, però posso dire Flavia Fratello. Sì. Bello questi giornalisti che lottano, però no? Beh, a me piace. Non gli piace la parola clandestino. Sì, però no, ha ragione Gasparri, sono clandestino. Sì, però un po' come facciamo? No? Vedi che in genere noi siamo abituati in genere. Sì, al conduttore noi, che passa. No, a noi ci criticano molto perché combattiamo, lottiamo, ci ritroviamo nel fango. Cioè. Vedi che ogni tanto, anche quando si tirano, fa bene la zanzara. Sì, ma non c'è dubbio, ma infatti fa benissimo a combattere bellissimo. Così. Poi tu non sei d'accordo, io sono d'accordo con la Fratello, invece... vabbè, d'accordo. E sarei stato un po' più, no? Ficcante con il signor Gasparri, un certo... Però bello questo combattimento. Non c'è dubbio, bello combattimento. Che ha tenuto la barra. Lei dice, sono persone, la barra non dritta ha tenuto, la signora Fratello, la barra dritta, la schiena ha detto, dritta. Ha detto come la pensa. Persone, la barra dritta ha tenuto. Persone clandestine. La barra dritta con Gasparri. Clandestini, non persone. Sono persone. Persone barra clandestini. Sono persone che scappano, sono uomini, donne, bambini. Clandestini. Non li fermerete mai. Clandestini. Vanno fermati. Chi ha fame, fame e riportati nei loro paesi di origine. Chi ha fame farà qualunque cosa. E noi li prendiamo? Tu, Bitonci, i leghisti, abituatevi. Noi li prendiamo. Gasparri, allora che cosa fa Obama? Cosa fanno? Anche i messicani? Abituatevi. Anche i messicani hanno fame e vogliono andare in America a guadagnare. Che cosa fanno lì? Metto una bella recinzione. Chi ha fame? E poi sparano. È disposto a fare qualunque cosa. Sparano, chi amico ha fame, sparano. È disposto a fare. Sparano. Tu saresti a favore di sparare ai clandestini? Ma in alcuni paesi sparano. In Spagna sparano. Tu addirittura vorresti sparare ai clandestini? In Spagna sparano. Tu non fai certo, politico. Certo. Tu spareresti. Io vorrei il metodo spagnolo. Tu spareresti ai clandestini. Se tu, cioè muro, se tu superi questo muro, spari. Sono persone. Ma è normale. Che non hanno commesso nessun reato. Ma cosa c'è? Scappano da terre martoriate. Vanno alla ricerca della felicità. Tu la tua felicità hai avuto la fortuna Gianluca di trovarla dalla provincia qua, di Lecco. Perché tu sei stato fortunato e vivi in un paese ricco. Certo, sono fortunato ricco, e non me ricco. Ne vergogno. Altri sono fortunato non e non me ne vergogno. Dovresti però entrare almeno in empatia con no. quelli che ma vivono che in paesi tu più disagiati. Tu sei ipocrita, non ci pensi mai. No, ma io dico, chiunque dice, ma io sono anche ipocrita, vivo qui e per fortuna non sei un prete missionario. No, non ho la pancia piena e sono molto fortunato anch'io. Poi ogni tanto fai così il terzo mondista. E dico che io non voglio sparare io invece a chi arriva qua perché io invece ha fame. Lo dico, io questo non voglio. Senza ipocrisie, lo dico senza ipocrisie. Sono privilegiato, perché non mi vergogno. Aspetta, non mi vergogno di essere privilegiato e me ne fotto degli altri. Punto. Gianluca dalla provincia di Lecco. No, ma non è che me ne fotto, ma come tutti. Ma non perché sono cattivo. No, perché politica. Quotidianamente me ne fotto come no. te ne fotti tu come io se ne fottono altri io non me ne fotto altri. Per niente perché io ho una visione del mondo delle cose vabbè. Che mi piacciono Gianluca provincia di Lecco dai Gianluca provincia Conti. Di Lecco ipocrisia pronto? Totale ma ipocrisia, ipocrisia assoluta Gianluca provincia di Lecco dai. Eccoci buonasera dai. Pronto buonasera dimmi caro vai eccoci qua ciao Cruciani ciao ho capito però non è che possiamo continuare così Gianluca no una cosa si esprima, vada. Velocissima voglio intervenire sulla tematica sollevata da Zanonato, crocefissi e mezzelune, no? Non so se vi è sfuggito. Vai, veloce, vai. È un tema che non interessa né ai musulmani né ai cattolici, perché né al cattolico né al musulmano interessa avere il crocefisso o la mezzaluna esposta. Questa ha ragione. Perché i cattolici Pronto? Sinceramente non Questa hanno ragione, bisogno... Del crocefisso appeso per dimostrare di essere cattolici e i musulmani credono che sia l'unico solo Dio e gli altri gli azzerrebbero. Ha ragione. Di conseguenza creare questo pantheon di dei in una classe esatto. Allora mettiamoci anche Confucio, mettiamoci pure Buddha e che ne so, confondi i ragazzini, snatura il tema della religiosità. Pronto? Sì, chi è? Mario Ferri? Pronto? Sì, salve, qua Radio 24, Radio 24, La Zanzara, ti sentiamo. Ciao, buonasera. Mi senti, come va? Ti hanno già arrestato, no? Ma dove sei? Al mare, tutto bene. Ma come stai? Dopo quel casino che hai fatto stai a Copacabana, dove stai? No, sto qua a Salvador de Bahia al mare, però c'è il problema che non mi ridanno il passaporto, domani c'ho il processo. Mi sto godendo domani è il processo. Di libertà. No, domani è il processo. Dunque, tu ti godi l'ultimo giorno di libertà in spiaggia a lì dove sei, a Salvador de Bahia, giusto? Che faresti? Ti chiuderesti dentro una camera? No, hai ragione. Ma tu dove sei? Di Pescara, giusto, se non sbaglio, no? È giusto. Dove sei? Di Pescara? Sei di Pescara? C'è un ritorno pazzesco, come mai? Perché è Brasile. È in Brasile. Senti, ma ti sei pentito un po' di... Tra il mare e la lontananza ci sta il ritorno. Certo, ma ti sei pentito di quello che hai fatto o no? Sinceramente no, sto vedendo un po' di critiche dal punto di vista che io criticano che sono entrato con una sedia a rotelle, ma nessuno sa, e io già ho pubblicato un biglietto, che io ho un biglietto normale, ho semplicemente affittato una sedia a rotelle, ho finto di avere un ginocchio rotto e sono entrato, cioè il ginocchio me lo posso rompere pure dopo domani. Non è il ma che c'entra che il ginocchio te lo puoi rompere dopo domani? L'attacco, per esempio, su Repubblica c'è scritto una vergogna il fatto che tu ti sei finto disabile per fare questa operazione. È una vergogna. Allora tutti i politici italiani che devono fare? Non mi sembra di aver ucciso una persona. Cioè, ma che c'entrano i politici italiani? Diciamo. No, ho capito, però i politici italiani che c'entrano adesso? Cioè, non è che puoi mettere in mezzo i politici italiani non quando non c'entrano perché... Non è che stiamo parlando di un gesto che moralmente non è tanto giusto, ok? E fino a qui ci siamo. Però c'è da dire che c'era dietro una connessione particolare, un messaggio che volevo mandare. Poi sinceramente era l'unico modo per arrivare a bordo campo. Già mi sono no, ma che l'obiettivo, signora, scusa, non sei nuovo a queste cose. Tutti a fare i moralisti. Ma qual era l'obiettivo, scusami? Io l'obiettivo ancora non l'ho capito bene. Dare un messaggio su che? Su Ciro? Volevo lanciare... Come, scusami? Il messaggio su chi è, per che cos'era? Per quel ragazzo morto a Napoli, a Roma? Allora, i miei messaggi erano due. Siccome io sono venuto qui per lavoro, a fare un servizio sulle favelas, ho visto la povertà con i miei occhi, ok? Non è che il mio messaggio salviamo le favelas cambia qualcosa per il mondo. È un modo come un altro porlo sotto l'attenzione, infatti ne state parlando. Stessa cosa. No, stavo parlando con te perché scusami un attimo, scusami Mario, scusami un attimo. Tu hai detto il primo messaggio è sulle favelas, però adesso sinceramente non è che c'era bisogno di Superman, no. Di Mario Ferri con la maglietta piena di sponsor per dirci che c'è un problema delle favelas anche in Brasile. Gli sponsor c'aveva. Sì, mi sembra che avessi che tu sponsor è tutto da questo, è tutto da parlarne perché qua è normale che se vieni in Brasile devi spendere 3.000 euro. Sinceramente io non è che sono un ragazzo ricco. Quindi ti sei fatto pagare il viaggio? Qualche aiuto che mi dà una mano e mi fa venire qua senza che io possa cacciare i miei soldi. Discorso sponsor. Discorso, ripeto, aspetta un attimo però su questa cosa. Mario, scusami un attimo su questa cosa qua. Allora, il viaggio è costato in tutto 3.000 euro. Questi soldi ti sono stati dati dagli sponsor, giusto? Allora, ma l'obiettivo dunque era chiaro sin dall'inizio, cioè fare l'invasione, dunque questi sponsor erano sotto i riflettori, la tua maglietta è inquadrata e dunque loro... Sì. Cioè questo era l'obiettivo. Sì, te lo confermo, questo sì. Non è che devo essere ipocrita, ti ripeto. Ho capito, ma gli sponsor pagano pure te però, gli sponsor pagano pure te. Ma come mi fai, se io questi soldi li spendo per il viaggio, che cosa mi pagano? No, ti pagheranno qualche extra ti pagheranno, di la verità. Ma che non è che i soldi... ma stiamo parlando di un bar di 20 metri quadrati, di un altro bar di Pescara in centro, cioè non è che stiamo parlando di multinazionali, Coca-Cola che mi ha dato 50.000 euro, qua parliamo di somme 400-500 euro tutti insieme e si parte, cioè... Scusami, ma tu di cosa campi? Di cosa campi tu? Di cosa campi? Da parte vostra della stampa... un po' troppo pesante, solo legato a questa cosa della sedia a rotelle. Sinceramente uno più che chiedere scusa, perché ripeto, il fine è stato giusto per me. Per voi può essere sbagliato, per me è stato giusto il fine. No, ma non è il sbagliato, mezzo, non è sbagliato protestare contro la povertà. No, ma ho capito il metodo della sedia a rotelle, lasciamo perdere questa cosa qui. Tu pensi che sia stato giusto utilizzare questa cosa per arrivare ad un fine. Adesso ti penti, chiedi scusa, eccetera. Però il problema principale non è questo, è che secondo me dietro c'è semplicemente un'operazione commerciale un'operazione commerciale verso te stesso anche. Commerciale di chi? Di un no, ma commerciale verso te stesso. Tu fai pubblicità a te stesso, non la mettere sulla questione delle favelas o su Ciro Esposito, ma che non c'entra niente Ciro Esposito e le favelas. Ti potrei dire di no. Invece ti dico, è normale che dietro c'è anche un mio, come ti devo dire, lo vogliamo chiamare esibizionismo, mi piace correre. Questo è sincero, allora, questo è sincero. Ragazzi che magari vanno a rubare e fanno cose molto più sbagliate, a me mi piace correre dentro i campi, mo o giusta o sbagliata che sia questa cosa, io penso che veramente non ci sia niente di male che attaccare così in continuazione una persona. Ripeto, il fine era giusto, il metodo è stato sbagliato, l'ho detto mille volte. No, ma il fine, scusami Mario, tu sei bravo a comunicare. La questione fondamentale è questa: io sono un esibizionista, tu l'hai detto prima, mi piace correre dentro i campi quando tutte le telecamere mondiali sono puntate su quei campi, sono puntate. Okay, questo qualche vantaggio ti porterà? Qualche vantaggio ti porterà o no? Più di qualche vantaggio. Ma che me lo porti o no, il motivo che io volevo lanciare, ok? Per me è positivo. Adesso che mi porta qualcosa di positivo, può essere che sì, può essere che no, può essere che io vengo arrestato, cioè poteva essere che qua invece di... Mo domani c'è il processo, sicuramente penso... Vabbè, ma quanto rischi, dai? Quanto rischi? No, non rischio niente, cioè voglio dire, probabilmente torno fra un mese, massimo due mesi, ti faccio l'esempio. Il discorso tuo fila, cioè il discorso tuo che io ci possa, tra parentesi, guadagnare d'immagine, ok? Chiamiamolo così, ipotetica invasione, ci sta, ma non vedo nella situazione attuale italiana tutta questa gravità, perché ti parla un ragazzo di 27 anni che vuoi o non vuoi che vada a fare invasione, io non lavoro, e non, non lavorano parecchi miei coetanei. Vabbè, ho capito, però non è che ho capito, è un modo per dire cerco lavoro, allora questo è il mio lavoro. E quanto ci guadagni da sta roba? Quanto ci guadagni da? È un lavoro, bene. Quanto ci guadagni da sta roba? Quando torno faccio le cose che mi piacciono. Io è da una vita che faccio, che ti devo dire, la discoteca, magari la serata che organizzo io ci verrà più gente, ma non è che divento il nuovo Berlusconi. Beh, certo, non diventi milionario, però amico, cose da piccolo, di piccolo amico mio, non mettiamo in mezzo, non mettiamo in mezzo allora le favelas e Ciro Esposito. E i disabili. Ci sono famiglie di disabili che sono incazzate oggi con te. Il discorso, allora, io speravo fosse un po' diverso. Che ti voglio far capire, non voglio essere ipocrita, ok? Ma infatti fai bene. Sto prendendo un gambo, sono consapevole dei pro e contro. Poi, se io voglio lanciare un messaggio di cui poi una città intera, Napoli, mi hanno riempito di complimenti, non capisco perché attaccarsi così in continuazione a questa cosa. Ho capito, però perché hai trovato un argomento che per cui una città, un popolo è sensibile. Attuale. Vabbè, guarda, io ti abbraccio. Mario, non è che un cuore mi può dispiacere per un mio coetaneo. No, per carità, anche sì, sicuramente ti sarà dispiaciuto. No, guarda, ti saluto, sei stato molto sincero. Sei stato molto sincero. Grazie, ciao. Ciao. Ragazzi, ci sentiamo domani, 18:30. Dall'Italia. Sì, torniamo. Tu a Milano, io a Roma. Ciao. Quando io sento l'inizio della trasmissione, dopo pochi minuti spengo la radio. Avete toccato il fondo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti ho lodato Gesù Cristo, sempre. Radio 24. La passione si sente.